1 su 10. Vabbè, Natalino. Vabbè, Natalino, ancora non ci ha buttato tutto. Io mi so per prendere gli apparati, E vendi pure i miei, cazzo. Guarda, c'era Graziano che voleva uno dei baracchini e gira. Tanto cosa mi voglio? Io mi tengo solo i 3.900, solo quelli, sono i migliori. Infatti, io ne vorrei trovare uno di 3.900 e così mi avrei venduto questo che mi causa problemi. Guarda, il 3.900 in teoria omologato, forse lo trovi da... No, aspetta, come si chiama? Lo trovi da... Come si chiama quel venditore un po' imbambito, che però ha sempre accontentato le persone? Radio Smitter è l'unico che dovrebbe vendere ancora il 3.900 omologato della Proxe. Hai capito? Aspetta un attimo, devo fare una telefonata. Ehi, fai la telefonata, fai pure. Marco! Eia, ti stavo dicendo, ma per vendere questi apparati che ho io, al limite li facciamo la fotografia. Sì, però, e dove li vuoi vendere? Su eBay? Io non ho mai venduto su eBay, non so niente, niente di niente della vendita. Io li vorrei vendere perché c'ho il Presidente Lincoln, c'ho quell'altro 120 canali, quello uguale a questo e questo qui, poi c'ho due baobao. Ehi, come ti dicevo, forse il 3.900 omologato lo trovi ancora da Radio Smitter, un utente di eBay. E chissà quanto costa però. Il prezzo, non mi ricordo, comunque quanto l'ho pagato io? Forse che non me ne ricordo. Sotto i 200, a filo dei 200, credo. No, tipo 189, 180, una cosa del genere. E d'altronde nuovi così costano. Perché, te lo dico già, la Proxel li ha finiti, i 3.900 li ha esauriti. Quindi questo Radio Smitter potrebbe ancora averne qualcuno omologato, ma non è detto che ne abbia ancora. Tutti l'hanno venduto e tutti, persino MPX Elettronica che ne aveva uno in magazzino, ho controllato e l'ha venduto. Purtroppo adesso bisogna aspettare che un'altra ditta riprenda lo stesso progetto e li rifaccia, perché prima li faceva la CRT, francese, poi li ha adesso sta venendo a me il malanno, me lo sento, mani sempre fredde. Allora, prima il 3.900 l'ha fatto la CRT, no? Commercializzato la CRT, poi l'ha commercializzato la Proxel, poi se qualche ditta lo rileva il progetto, continueranno, spero che continuino a rivenderlo ancora, perché è rimodernato, aspetta che abbasso il PMR, ma non ammala. L'hanno rimodernato rispetto a quello degli anni 80, no, è aggiornato, non è quello degli anni 80, è migliorato, capito? Sì, ho capito, ma anche se non è omologato, me ne piglio un altro omologato che costa poco, tanto per averlo. Purtroppo, guarda, gli omologati crescano bene, siamo messi male, perché se prendi quei 40 canali sono delle cagate, cagate al cupo, ne ho uno io ed è terrificante, è proprio indegno. Mentre una volta i 23 canali, 40 canali omologati degli anni 70-80 uscivano bene, questi di adesso sono nella betomba, cupo, brutto. Di omologato cosa c'è? Buono però, pesca bene, io lo sapevo solo il 3.900. tutti gli altri non sono omologati. E il job pizzita che c'è, però non te lo consiglio. Quindi c'è un bel IQRM, un bel. Quando uscivo in macchina era una tortura. Ogni lampione, ogni luce a neon faceva un ciocco. E siccome tu guidi IQRM in quella zona, non te lo consiglio il job pizzita qua. Non te lo consiglio proprio per niente. E infatti. Io l'ho avuto col nome di Albrecht, però era lo stesso apparato. Sì, usciva bene di radio, però mamma mia, un incubo. In macchina era un incubo, ogni, sai, le insegne elettroniche col neon, terribile era. Il più silenzioso in assoluto è il 3009, perciò io ti dirò che sono arrivato a un momento che stavo per comprarmi il terzo 3009, per averli uso futuro, cioè mai sia che si rompe uno, c'ho l'altro, capito? Poi, va bene. E andata lì, se no, io, adesso ti faccio, io perché sto usando questo? Pensa che c'ha il trimmer da lei chiuso, come di fabbrica, perché non disturberà mai questo, capito? Ehi, infatti, uno che non disturba me ne devo buscare. Chi sia Zincaro, così almeno non disturba e posso parlare. Natali, però il discorso è sempre quello. Tu l'omologato ce l'hai, no? Quel Goldatex o così, ce l'hai. Beh, disturbavo anche quello, quindi la colpa non è tua, è di quei coglioni dei tuoi vicini. Te lo dico a parole mie. È un problema loro, capito? E purtroppo, per colpa loro, sei costretto a trovare una cosa che ti disturbi il meno possibile. Ma se tu gli togli il filtro, soprattutto quello che ti ho prestato io, disturba lo stesso, ma perché la colpa è loro, non finirò mai di dirlo. Io lo so che è di loro. La guippa non è mia, no? Oh, è vero pure che... Certo, può darsi pure che quell'apparecchio lì è performante, no? L'Omega Force, se lo metti in macchina è una bomba. Però purtroppo sicuramente spara spurie armoniche. Io l'ho usato in macchina era un bijou, però a casa, secondo me entrava anche nel cassetto di stereo, capito? Va bene Natali, cosa ti dica? Cioè disturberai sempre, anche col 3009. L'importante è che tieni in auge i filtri. Però Natali, questo filtro, ricordati, prima o poi mi dovrà ritornare, no? Io ti ho detto ordinatelo. Anche se non vuoi usare carta di credito, tu telefoni al venditore e gli dici me lo mandi a tale indirizzo con contrassegno. È risolto. E se te lo mandano a contrassegno però faccio prima dare i soldi a te e te lo ordini. Ehi Natali, ti dico la verità, ho ordinato una cosa a una persona, ci sono stati problemi, l'apparecchio non andava bene, mi sono dovuto azzuffare io col venditore. Purtroppo l'ho detto anche a Luca Del Monte, io d'ora in poi non ordino più niente a nessuno. Mi dispiace. Gli devo ordinare uno schermo a Luca, però non ho detto. Ognuno impari a usare eBay, impari a usare, come si chiama quello per pagare, PayPal. E poi Luca mi ha detto, ma quel sito è in inglese. Ascolta, uno che tratta di computer lo deve sapere, c'è il traduttore di Google, basta mettere il collegamento della pagina, il traduttore da pagina te la traduce, quindi mi spiace, ormai faccio solo ordine per me, non ne ordino più a nessuno, mi spiace Antalì. Ma no, non voglio più responsabilità. Andrà bene Mera, dove ti dica. Comunque secondo me lo mandano, allora interessa vendere, capito? Allora interessa vendere. E poi non è solo un venditore che ha quel filtro, ce l'hanno vari venditori. Guarda che è marcato anche Midland, è identico. Dentro è lo stesso filtro, però è marchiato Midland. Comunque io per non saperne scrivere né leggere né scrivere ho preferito quello della RM Italy, proprio della mafia lineare. Infatti, no, funziona bene, vedo che funziona. se no me ne sarebbe venuto quello a rompermi le scatole. Adesso c'ho 5 watt. Eia, però conta che hai anche lo ZG. Cioè, se tu metti solo il filtro RMI lì, com'è la situazione? Forse comincia un po' a disturbare. Cioè, a telemetria che uno si deve attenuare di 100 decibel l'uscita del baracchino perché loro hanno l'antenna incasinata. E colmo, purtroppo per il questo vivere si fa quello e altro. Ehi, per non azzuffarsi, No, c'ho solo quello che mi ha dato tu, l'ho tolto l'altro perché mi creava problemi di stazionari e cose. Ah, lo hai tolto lo ZG? Quindi solo con quello va bene. Ok, buona sapersi. Attari, c'avevi 2 mesi di tempo, ordinatelo, cosa ti costa 30 euro, cosa, non è una cosa costosa nemmeno. Certo, non è un filtro professionale, perché ho visto filtri Zara di amatore, tutti regolabili, che era una cosa, ma costavano centinaia di euro. No, ma questo funziona bene. Cazzo, non riesco a parlare, vaffanculo. Mi sta prendendo a me la gola ogni tanto. Mani fredde, il naso che è chiuso, dopo vedrai che mi viene l'accidente a me. E d'altronde cosa faccio? Quando vado alle poste in zone affollate, o mi metto la mascherina e poi mi pigliano per affettato però. E in Giappone lo fanno, capito? Sia per lo smog, sia per non pigliarsi virus, si mettono la mascherina, ma se la metti qua a lì, ti pigliano per affettato, capito? E poi sono maleducati, ti tossiscono in faccia, cazzo, no, non lo so io. A me mi hanno contagiato, se no non l'avevo pigliata. Perché è venuta gente da fuori qua e quando se ne sono andati l'indomani eravamo pizzicati, io e mia moglie, tutte e due. Vabbè, c'è un periodo di incubazione naturalmente, magari non era quello. Mamma si era vaccinata, perché sai, lei è anziana, insomma. Poi se viene a me, vabbè, pazienza. Ma la devo grattare. Sì, ho notato, ti tossiscono, ma non tanto i grandi, no, ma i giovani, no, che ci vicini, 25 anni, li vedi. Ce l'hai a fianco quello. Non si mette la mano davanti alla bocca, non si mette il fazzoletto, niente. Proprio da strafottenti lo fanno, capito? Maleducati, incivili sono. Pittina, ma lo sai quanto è brutta questa influenza? Guarda, è passato sentirlo da te. È brutta, brutta, mamma mia. Vabbè, vediamo se mi becca. Vediamo se mi becca. Magari di striscio però mi beccherà. Non è che posso uscire cazzo con la maschera antigas, no. Così io pigliare il balmasco. O la mascherina, te l'ho detto, ti guardano male. Dice chi ci vuole l'AIDS. Speriamo che non ti becchi, anzi, è poco che non. Ti butta a terra, mi. Se ti prende ti butta a terra in una maniera che qua. A me non mi è mai successo. Guarda che io andavo anche con la febbre a lavorare, ma questa volta sono 2 settimane che sono crepato. Eia, vabbè, la prendo con filosofia. Ma c'è gente che c'è morta, per quell'influenza, tipo 31 morti in Inghilterra, ma più che altro erano anziani debilitati, capito? Oppure gente che ha immunodeficienza, insomma gente che è già malata di suo. Sì, lo so. Prima mi è giunta la diarrea, mi è giunta. E non potevo stare qua, era una cosa incredibile. Ma buttata a terra in una maniera, raffreddore, andai giù, guarda, crepato. E in ultimo adesso no, mi è venuto questo affare, sarà la gola infiammata, gatta. Boh. Con queste calamelle al miele, boh, questo gola action. Vabbè, io preferirei latte bello caldo col miele dentro, latte bello caldo, già abbastanza caldo, certo non ti deve ustionare, però col miele dentro sciolto, con come i rimedi della nonna, mi. Fatta anche quella, non mi ha fatto nulla. Vedo che sto parlando un po' meglio, ma ancora sono così. E ieri per assustarmi mi sono guardato il film Contagion. Proprio c'era una... è un film che parlava di un virus aviario, che aveva beccato non so quanti, un miliardo di persone nel mondo quasi, vedi morti a furia dura, capito? Com'era stata un po' la... vabbè, un miliardo di morti? No, sto sbagliando. Com'era stata la spagnola? No, qual era quella terribile del 1900, all'inizio del secolo? Qual era, la spagnola o la... Non me lo ricordo. E la spagnola mi sembra che fosse, solo che a me non mi aveva beccato. A me è raro che mi becca l'influenza, forse se mi ha trovato debole e mi ha cribato. Ebbene, a te lì non ti può aver beccato la spagnola. Era, mi pare, nel 1908. E lì c'è, tu non eri nato all'inizio del secolo, e... Ma un'altra ce n'era pure, che già ero nato, è grande pure, brutta, ma bruttissima. Guarda, la verità, io influenza non ne ho prese molte. Però qualcuno mi ha dato febbre, più che altro febbre, dai, non diarrea, non vomito, febbre. È così, più che altro il naso mi prendeva, quando i testa, il naso chiuso. Vabbè, che devo dire, questa mi pare si chiami australiana, questa influenza che c'è da noi adesso, australiana. E dice, man mano che si è allontanata dall'Australia, nascevano dei ceppi nuovi, capito, dei nuovi ceppi, quindi magari tutti i vaccini per un ceppo e invece ti becchi l'altro ceppo e ti ammali lo stesso. Oh, che la volta che mi ha preso per forza la dottoressa, perché io ero a rischio, ma vaccinando, tre volte l'hanno la giubilata, ma non era così forte come te chissà. Tre volte l'ho presa, quando mi sono vaccinato, perché deve essere, non mi attacca il vaccino, era per un altro ceppo, cosa ne so. Comunque, fatto sta che l'hanno l'ho presa tre volte, ma non era così potente come adesso. A mia moglie ha diarrea, vomiti, l'ha presa, febbre, cazzo, di tutto. Lo so, ma quanto ho letto è abbastanza puzzolente questa influenza, bella ticcia. Vabbè, che devo fare? Non posso vivere in uno scafandro quando esco, pazienza, se capita. Io per me la mascherina me la metterei, no, quella che va sul naso e bocca, però molto relativo, non è che posso vivere con la mascherina addosso, no. No, quando si mette una sciarpa in bocca, la bocca vuole coperta. E il naso, bocca e naso, anche quelle mascherine chirurgiche, mi color verdolino, che sono più sottili. Diciamo che poi ti stava detto che ti guardano male. Basta la sciarpa, copriti bene. Tanto adesso dovrebbe, sarà passando questo cavolo di influenza, mamma mia. Io non lago neanche il peggior nemico di beccare questa influenza, perché guarda, io sono due settimane che non posso uscire, devo uscire anche a vedere se mette in moto la macchina, mamma mia, perché ho messo la batteria nuova, sono, guarda, in una situazione assurda. E vabbè, comunque è destinata a passare, Natalia, è destinata a passare, l'importante rimane al caldo. No, io per la batteria praticamente è rimasta quando si era rotto quella cosa del freno dietro, no, quella forcellina, una molla. A ordinare il pezzo è rimasta ferma dal meccanico nel parcheggio, diciamo, è rimasta ferma un po' di giorni e col freddo era scesa 11 volte e mezzo la... Lo sai che partiva a fatica la macchina? A malapena riusciva a partire, allora ho tolto la batteria, ho caricata con quel caricabatterie famoso di Lidl, poi l'ho controllata con quell'apparecchietto sempre che vende Lido, che misura sia la tensione batteria sia la tensione del regolatore, e ho visto che ha caricato la batteria e l'alternatore è carica, quindi per adesso è buona. Se tiene la carica, vabbè, la uso. Se perde la carica di nuovo, vuol dire che va cambiata. Col tester te ne accorgi subito. Prima la misuri a quanto è, e deve essere più di 12 volt. Dopo metti in moto, deve salire a 14 volt. Con la macchina in moto accendi le luci, poi se si abbassa vuol dire ci vuole buttata, perché deve rimanere alta con le luci. Già fatto la tariffa. No, siccome mi si è rotto il puntale del tester, no? Da lì dove stavano dando questo tester a LED per misurare la batteria della macchina e l'alternatore, no? C'ha proprio morsetti per la cosa, c'ha dei LED, no? Si fa vedere 11,5 scarica, 12 mediamente carica, 12,6 completamente carica. E in più mi misura, mi controlla l'alternatore se sta a posto. Infatti ho messo sia le luci che il lunotto posteriore che assorbe un po' per fare, per vedere se è collassata. Ma vedo che è tutto a posto. Questa volta per adesso si è salvata la batteria. È una Magneti Marelli. Adesso 100 euro e passa. Me l'ha fatta pagare il meccanico. E ce l'ho, quindi durata, a febbraio fanno 3 anni di quella batteria. Vediamo se durerà di più, perché se no mi ho una tariffa, per durare 3 anni basta comprare quelle batterie di Ocean, Ursus, e durano lo stesso 3 anni, e costano 45 euro, 50, e non 100 più euro. E io lo so. Buone sono quelle Fiam, mi stava dicendo Pierluigi, l'elettrauto, però costano un botto. Lo so, guarda, Fiam, Magneti e Marelli, costano un bel, poi costano un bel perché prendi dal meccanico, solo quella volta io ero proprio a terra. Era a terra, la macchina non ho fatto giusto in tempo a arrivare al meccanico e non metteva più in moto. E purtroppo me l'ha cambiata lui. Sai, mia zia non era disponibile, diciamo, andavamo da Ocean e prendevamo di quelli di Ocean. Io ce l'ho, questa Magneti Marelli è da 60 ampere. In realtà io avrei 55 di ampere come... 55 ampere ho di solito per quella macchina, però anche 60 a male non fanno. Anzi, più ce n'è meglio è. E poi deve avere una capacità di spunto anche elevata. Sì, infatti. Basta 45 ampere per la macchina che hai tu, che ha benzina. Da me gli venivo 80. Il diesel è pesante. Ci dà avviare. Ehi, ehi. Tanto poi io non la compro a caso, la misuro larghezza, altezza, tutte le profondità, tutte le tre misure prendo, quando la prendo da Ocean, capito? Quindi non sbaglio, controllo le ampere, non vado mai al di sotto dei 55 però, mai, non la metto da 50, la voglio proprio come quella che c'era di fabbrica. Per quella macchina basta da 45 ampere, ti sto dicendo. Se poi tu la metti più grossa è anche meglio, perché dura di più. Sì, infatti. Poi se la pigli più piccola magari, perché c'è un piccolo morsetto che la tiene in sede, no? Se la pigli più piccola magari non riesci a prendere la batteria al morsetto, capito? E balla. Vabbè, comunque lo Ocean stanno vendendo un carraggio di batterie per macchine, tutte le marche, tutti i modelli. Un bel ce n'è. Sia Varta, sia modelli a me. Che saranno batterie cinesi, credo. Oh, costano pochissimo. 45 euro, 39 euro. Io volevo comprarmi quel tester che hai tu di... per misurare l'alternatore e la batteria, quello che è preso da Lidl. Solo che bisogna vedere se viene Natali, se vuoi costa 3,99. Ma è comodo, sai perché? Perché col Tesla devi tenere i puntali a mano, no? Lì c'hai i morsetti, attacchi i morsetti, ti poggi il Tesla sul letto e tu da dentro accendi le luci e controlli che l'alternatore salga il giusto. Perché se l'alternatore sale troppo a 15 volt, e allora non va bene, non deve essere troppo alto nemmeno. Deve essere giusto, tipo 13,5, 14, forse anche 14,5, ma non deve mai salire dai 15 in più, cioè dai 15 a oltre è pericoloso, può bruciare la batteria. Lo so, 14 è qualcosa. Se vuoi io guardo, lo prendo, però quando te lo porto mi metto la mascherina. Se non c'è che mi contatti. Sì, quando mettiti la mascherina, buono di chi sui voi, i pannolini, sì, mi sarà passente a me, sa cosa? È solo la gola che c'ho infiammata, non c'ho altro. Però non esco, sai che mi butia. Meglio la gola che la canna. Ah, questo indubbiamente. E l'altro giorno roba di risappe, tu non c'eri in PMR. E quando? Cosa è successo? Perché? Dimmi. C'era Pomponius con Giuseppe. Giuseppe io non l'ascolto, eh. Avevamo già fatto le prove, nulla, non arriva assolutamente, è coperto, rispetto a me è coperto. Non arriva proprio, nemmeno sbloccando lo squelch, nulla. Mi dispiace per Giuseppe, ma... Beh, dimmi cosa hanno detto, perché era divertente. Sì, cazzo, ne hanno detto di tutti i colori, poi come l'ho sentito a me, perché Pompugno non mi ha riconosciuto, perché non riusciva a parlare, allora gliel'ho spiegato la situazione. A un certo punto ne è uscito Giuseppe, mi è uscito e mi ha detto... Natali, però già lo sai che ci vuole la supposta per quella roba che hai tu. Giuseppe, che fa bella grossa vuole la supposta, vieni a darmela che così almeno mi passa. Attacca di Pompugno, di tutti i colori mi sono sentito. Io l'ho sentito quando c'era Luca del Monte e Luca Flipper che stavano scherzando. E stavano dicendo roba così per... così per... poi si è girato Pomponio e gli ha detto a girarmi i coglioni, gli ha detto Luca. Si è girato di colpo, capito? Perché dice, vabbè, scherzare è bello, ma fino a un certo punto, lei. Ega, Luca Flip. No, Del Monte. Ah, è Del Monte, yes. No, stavano scherzando, però boh, si è girato, ogni tanto Pomponio, sai, scherza, ma poi alla fine diventa pesante lo scherzo. C'è nessuno in questo canale, mamma mia, sempre peggio. Poi dice, perché me ne vado su 23? Perché almeno c'è gente alla tarina e dovresti fare così anche tu. E poi ricordati che loro sono da Sassari, cioè Giulia di Pultima ti dovrebbe ascoltare per forza. Gli altri sono tutti alla Terocce e per forza arrivi, non è gente di Alghero, no? Oh, yeah. Non rispondere. E la pubblicità, telefonano 02 Milano. E allora giù, tu non rispondi nemmeno, sarà di un telefono. E io ho detto, mi hai capito? Quando non c'è nessuno qua, poi non è anche solo 23. Loro sono tutti a Sassari, quindi ti devono ascoltare per forza. Poi vabbè, se non vai perché qualcuno ti è simpatico, non so conto allora. No, io ho problemi solo con una persona, boh. Però se io sento Giulio entro e lo saluto e già mi sente, perché non mi deve sentire. Sì, ma anch'io quando sento Giulio, anche Gio Maria, insomma, prima ero un po' più prevenuto, perché vabbè, non si può dire qua. Ma poi vedo che saluta cordialmente, insomma. Va bene, dai. E l'altra sera sono sentito, bravi siete, allora ne smonto tutto, ne vendo tutto. Ma perché? Vabbè, tu entra c'era in tutta la sfera. Ma lo sai in quanti eravamo? In tre, io, Fabrizio e Gianfranco, in FM addirittura, qua. Ah, e poi è entrato anche Gianni, che se ne è dovuto andare dopo perché è arrivata gente lì, e quindi se ne è dovuto andare. Però eravamo qua in FM. Vabbè, bello in FM, ma Claudio sta entrando, sì o no? Ieri mi pare che non è entrato. Avanti ieri sì, magari se era impegnato, capito? Eia. No, io ieri ero fuori sede, dovevo fare roba e commissioni e fare le varie, dice. Gira gira è meglio fare in macchina che moto, me. Perché moto, nonostante il parabrezza, si può sempre bicicare. Nonostante i guanti, nonostante i pantaloni sotto, nonostante il parabrezza, si può sempre fregare molto. Il freddo, le ricadute di influenza. Infatti io non sto uscendo per quello. Le volte che sono uscito, manco al bar sono passato, sai che cata vira qualcuno e mi va di abbigliare la ricaduta. Allora ho preso dritto a fare le commissioni che dovevo fare, sono uscito una o due volte, boh. Però va, finché non mi passa questo affare della voce. Avevo sentito, non so, un giorno avevo sentito disperatamente chiamare da lontano, avevo chiamato, mi pare, cosa, come si chiama, Eugenio, un primo pomeriggio, stavo chiamando, ma io stavo facendo roba, cioè potevo sentire ma non potevo parlare, chiamando disperatamente, oh c'è nessuno sul 10, vabbè. Purtroppo, cioè, presto non... Primo pomeriggio non entra nessuno anche, peraltro. Io, quando posso, faccio la penichella. E gli altri lo stesso. E anche io mi sto coricando fino alle 5, così, 4 e mezzo. Perché sono crepato, senza far nulla. Barinaggia Lampado Montagni. Guarda che non stavo manco mangiando, mi aveva preso per queste medicine, questa ipersensibilità, non potevo mangiare nulla, trovavo tutto salato, piccante, non potevo mangiare nulla, una cosa incredibile. Infatti non ho preso più medicine per liberare il fegato, perché guarda, ero in una situazione assurda. Aspetta, che sintomo strano. Guarda, mamma da giovane ha avuto una cosa simile, però non prendeva al gusto, prendeva all'olfatto. È venuto questo fenomeno passeggero strano per cui sentiva gli odori intensificati di 100 volte, tipo se sentivi la frittura, no? Roba friggendo, era un odore nauseabondo, non poteva stare, lo sai. Sentiva gli odori fortissimi, ma poi gli è passato, ma cosa fosse dieta, ma te ne immagini? Quella tachipirina e non ne biglio più. A me pure ha fatto così, sentivo cazzo roba di minestrone, deve essere provenire da fuori. E io cazzo sempre, non ti dico nulla, ma lo so fumo, né sapori, né odori. Ipersensibile, peggio di un cane. Infatti i cani, chissà che assillo di odori che sentono. Ora ci sono odori di frittura, sai, quegli odori un po' pesanti, chissà che fastidio che prova il cane. Ma io sentivo questo odore di minestrone, deve essere, non lo so se era minestrone, un odore bello, buono, però io non ne potevo mangiare perché se me lo mettevo in bocca qualcosa, la sentivo o troppo salata, o troppo piccante, non potevo mettere il formaggio nella mia... Guarda, non potevo mangiare nulla. Caspita! No, così non ne ho mai avuto io, ipersensibilità al gusto. Non mai provato. Vabbè, magari è una reazione davvero al farmaco. No, comunque mamma quando era giovane non manco esisteva la tachipirina, ma giovane ti parlo tipo 18enne, capito? O anche più giovane, non esisteva la tachipirina, c'era l'aspirina generica, vabbè. Ma è una cosa che le è venuta così, sui capillari venicinali, lo sai, da un momento all'altro ha sentito gli odori fortissimi, le davano anche fastidio. Qualsiasi che non sia dalle medicine che mi sia venuta a me, che sia il virus che me lo faceva. È tutto possibile. Comunque muta il virus, cioè da quando nasce a quando si propaga muta più volte. Quindi alla fine non c'è un ceppo, ma ne trovi due, tre, forse anche di più. È un casino. Il virus cambia la sua struttura. Vabbè. Purtroppo i malanni, mamma mia, quando vengono bisogna tenersi e aspettare che passino prima possibile. A me me l'ha detto Rita che erano i farmaci, aspettare a non pigliare più farmaci, che sennò era un macello. Allora, infatti sto mangiando a poco, io sono debole pure per quello, perché non stavo mangiando. Cata, una via pigliando una fanè, così salata la sentivo io, mamma mia, trabana. Caspita. Vabbè, l'importante è che sia un fenomeno passeggero che passi dopo. Ho sentito parlare di un pesce, no? Tipo un pesce tropicale, no? Che se per sbaglio lo mangi ti incasina la percezione sensoriale, cioè se bevi un brodo bollente ti sembrerà freddissimo come un gelato. Invece se mangi un gelato ti sembrerà bollente, capito? Ti inverte il caldo e il freddo, la sensazione è il caldo e il freddo. Una cosa assurda. Mamma mia. Guarda, quello che ho passato con questa influenza, mai. Sì, sentivo la cosa cucinare là fuori, senza cucinare niente qua, mi. L'odore là fuori sentivo. Mai sentito in vita mia odori così forti. Chiarito, se poi ti becchi il secondo ceppo, il terzo ceppo, tutti ti... Non mi devo beccare più nulla, che sono un gribado. Oh, yeah. Bene, stamattina siamo andati dal medico, ci ha dato delle ricette, comprate medicine, anche per mia zia. Poi siamo andati a Piazza dei Segni. Quindi siamo andati al bar, piace un caffè io, mamma, boh, non lo so, un cappuccino. Poi da MD, quel piccolo negozietto, piccolo, quell'alimentare che c'è a Piazza del Segno. Poi, come siamo andati a farci un giretto alle bancarelle, è iniziato un po' di pioggerellina, stavano fuggendo tutti, ritirando in fretta la roba. Vabbè, pazienza. Vabbè, che cosa vuoi? Ma... lo puoi immaginare, Cata, come ero tutto messo male. Adesso sto da re, si può dire. C'ho solo l'affare che non posso sforzare la voce perché non parlo, non esce. E allora tu parla sottovoce, così sei anche più sensuale. Ah, quando mi dici così ti temo. Opla, scusando. Mi salito un rottino di quella pizza schifosa che abbiamo. Sa cos'è? Si è mezzo brutto. È uscito un fumo dal fornetto, quello a campana, un fumo. Praticamente ci aveva di affumicato la pizza, lo schifo. Tutto perché abbiamo usato, anziché il fornello elettrico, quel fornello a campana. Non lo so perché è uscita così, boh. Una parte della carbonizzata, proprio nera sotto, nera. Un tizzone. Infatti le bestemmie le ho tirato, mi. Oh signore, anche a mia moglie nelle mie capadarri, Marco, quando ha detto che ero più sensuale. E' tipo così, ah, il Marcolino, caro. Oh yeah, Italia. Dicono mi conosia, Pomponio. Sembra un cadavere, ma di... Ehi, è rimesso male, mi è proprio... Qualche, sembra che non avevi la voce da mostro. Oh, ti avrei voluto vedere come eri messo al culmine proprio della cosa. Così mi dicevi, Marco, chiama il prete. Sì, c'era a cavallo. Mi ha detto che sembra un uomo vecchio di 80 anni. Mi ha detto, Pomponio. Ah, per influenza. Aspetta, quando lo becca lui voglio vedere. Io allora glielo dico che è un cadavere. Bene, ma ho trovato un bel CD, tutti i film a pirata, allora ce l'hanno potuto. Lo sai che i masterizzatori del computer sono una fottitura? Perché tu ti masterizzi un film, no? Dopo pochi anni, già 4-5 anni, illeggibile. Sono una fottitura i masterizzatori, solo quelli che originali comprati sono eterni, passati tratti bene, però quei masterizzati si... è come se ci cancellasse la traccia, amico. È roba da trilisi, non servono a niente, non se ne salva uno. Invece i film che tu compri già pronti li fanno in modo professionale, con apparecchiature professionali, che fanno una traccia con laser bella profonda. Evidentemente sono laser del cavolo, quelli che ci sono nei masterizzatori normali. Sì, sono giocattoli, proprio giocattoli. Bene, un'altra volta mi stavo guardando gli assemblati da internet, guarda, ce n'erano due che facevano il caso mio. Uno aveva un processore i3, Intel i3 7100 mi pare, o qualcosa del genere, RAM di quella che mi hai detto tu, DDR 8 giga DDR3 mi pare, no? Poi aveva prese USB sia 3.0 che 2.0, insomma è una bella bestia, era, vedi? Solo una cosa però, non ti davano la scheda video, cioè quella scheda madre aveva già la scheda video Intel incorporata, e loro dicono che per uso ufficio, per una cosa normale va benissimo quella. Vabbè, se giochi, se fai giochi pesanti, ma io non gioco, col computer non gioco, mi serve per navigare, vedere video su YouTube, comprare roba, soprattutto. E allora quella dell'i3 va benissimo, non bene no, benissimo, la scheda video, ma lo sai cosa c'è per spendere poco, al posto dell'i3? Ehi, dimmi quale? Allora, è come un i3, come che tu metti un i3, è un Pentium, il G4560, usa la stessa scheda madre e la RAM dell'i3 e costa la metà. Poi un domani, se tu ti vuoi mettere l'i5 e l'i7, lo puoi mettere in quella scheda, capito? Eia. Poi dallo stesso negozio online, allo stesso prezzo, no? Ti davano lo stesso identico computer, però anziché il processore i3 7100 c'era un i5, non mi ricordo cosa c'era scritto, però i5 dopo 7000 e qualcosa o 6000 e qualcosa, non mi ricordo, per 50 euro in più, capito? Ti davano più processore, quello era veramente bello. Solo che poi se c'è problemi, quello una volta venduto, ciao, e cosa fai? Glielo rispedisci là per l'assistenza? Ecco perché io dico, casomai ti porto la lista, dico, lo voglio come questo qua, e me lo faccio fare via Bucari. Comunque, da lì, anche se io dovessi farmi un computer con Windows 10, cosa me ne faccio di quell'altro ufficio, il portatile con XP? Me le attacco alle chiappe. A culo te li attacchi, prova, bisogna vedere se il portatile ce la fa a reggere Windows 7. Ci metti Windows 7 invece di 10, ci metti Windows 7, anche nell'altro fisso. se avete il 7 almeno puoi, se avete Windows 7 puoi, è più blando, mi almeno puoi usarti tutto e non c'è bisogno di aggiornarlo. Il portatile, non lo so, ma perché, perché? Allora, il portatile ha 512 di RAM, però la scheda video è integrata e ruba della memoria alla RAM. La scheda video è 64 giga e da 512 110 64 per la scheda video, e quindi è un pochino la RAM, poca per Windows 7 mi sa. Ma lo metti a 32 bit e va bene, capito? E se no glielo aggiungi la RAM. Io qua lo sai quante bacchette di RAM c'ho, magari vanno bene per il tuo fisso portatile pure, devi venire a vedertele. Eia. Certo che sul portatile è più delicato cambiare la RAM, mamma mia, è delicato, cioè non so nemmeno se si trovino più, perché saranno più piccole, più miniaturizzate, sai. Allora, quel portatile io l'ho comprato nel 2005, anzi me l'aveva regalato mamma nel 2005 per compleanno, boh, una cosa del genere, e funziona tuttora, io ci sto navigando. Diciamo che il browser che c'è è un po' pesante, è un Firefox come browser, però ho trovato un browser che magari non lo conosci, però è leggerissimo, tu clicchi in 3 secondi e è già avviato, mentre l'altro è piuttosto, qui vediamo un po' di memoria, quando avviarsi ci sta almeno 10 secondi, capito? Poi c'è quell'altro browser che ho messo sul fisso, sul computer fisso, aspetta, si chiama Chameleon, Chameleon, è tutta roba derivata da Linux, no? E ti dirò che è una scheggia, no? Cioè, una scheggia, sempre relativamente a XP, capito? Ne ho capito. Io qua, se voglio, questo che ho io, vendono sia il processore, invece che lasciare lì questo, gli metto un quad core con la stessa scheda. Mi devo comprare la scheda solo, col processore costa una cazzata, e me lo aggiorno. Invece che dual core lo faccio andare con un quad core. E c'ha le stesse RAM, c'ha tutto. Ah, poi ti volevo dire, quel i3 Intel oppure quel i5 avevano quel nome che mi hai detto tu, quel nomignolo, Kaby Lake, sì, Kaby Lake, quello che mi nominavi tu sempre. Ehi, anche il 4560 è un Kaby Lake, praticamente tu ci metti quello che è uguale all'i3, è quasi uguale proprio, perché c'ha dual core e altri 4 processori, perché fa l'hyper trading, quando ne ha bisogno prende da lì. E il fatto della RAM, che usano le DDR4, se tu ti fai una configurazione del genere, al limite quando c'hai soldi poi puoi mettere l'i5 che è un quad core, che cazzo è una scheggia, poi ci metti gli SSD cazzo al posto dell'hard disk normale, e l'hard disk normale te lo usi come archiviazione, là. Il sistema operativo lo metti su un SSD, diventa una scheggia. Sì, guarda, io direi il sistema operativo e forse anche programmi conviene metterli. Beh, giustamente, dove c'è il sistema, e lo so, è molto più veloce dell'hard disk. Quell'hard disk a parte il movimento, è soggetto a rotture, proprio fisica e meccanica, capito? È superato ormai l'hard disk, infatti gli SSD sono l'ultima generazione, solo che adesso sono piccoli ricapienti, costano un bel ancora. Ma tu l'hard disk che hai, te lo usi come archiviazione, per il sistema operativo usi l'SSD, hai capito cosa ti voglio dire io? Qua quando parte una scheggia, poi cazzo, se vuoi programmi ce li hai nel coso, tutte le fotografie, la mondezza, la metti nei hard disk. E risulta, le CCD sempre è tranquillo. Eia, io adesso per esempio ho due hard disk esterni, no? Uno era, tutti e due l'ACIE, così c'è scritto. Uno era da 500 giga ed è pieno, e c'è roba più vecchia. L'altro è da 1 terabyte, quindi 1000 giga, e ancora non è pieno. Ancora non è pieno, c'è un po' di spazio, c'è ancora di spazio, e la voglia. E vabbè, quelli li lasci esterni sempre. Io stavo dicendo a mettere un hard disk interno come archiviazione. Capito, il sistema operativo prendi e lo metti su una SSD e vedi se pompa. Io vorrei vedere se funziona con Windows 7 quel computer che hai tu, quello fisso. Guarda, sì, se aggiungi la RAM, se porti la RAM a un giga sicuramente gira. L'importante è che ci siano i driver per tutte le periferiche, però. Purtroppo, vedi, andrà una serie, io sul fisso ho la scheda di acquisizione video della Pinnacle System, però quella va solo con 98, che io sappia. E l'ho comprato, sì, ma sì, buonanotte, 98, con XP. Andava con 98 XP massimo, non esisteva all'epoca il 7. E quindi, guarda, preferirei allora... Perché sto parlando a voce alta? Allora, preferirei allora farlo col portatile, riuscire a trovare una memoria e fare l'upgrade al portatile, dai. Basta vedere che memoria c'ha. Eia, sì. Certo, quello me l'ha regalato mamma, quindi io non è che potevo dire no, quello non lo voglio, voglio quello da 700 euro. Quello costava, mi era costato all'epoca, mi era, mamma, 6,99. Capito? Adesso con 6,99 ti viene un mostro rispetto a questo. C'è roba già abbastanza spinta, però sempre portatile, già lo sai, non puoi toccare nulla, è tutto minuscolo, non puoi riempirlo. Sì, infatti, io ho visto cazzo certi portatili che ci schiaffano l'SSD al posto di quello da 2,5. Oh, dimmi fra, ciao. Ciao, c'è la telefonata lì. Questi sono da comprare, sono i portatili, per carità. Certo, pensandoci bene, tanto guarda, sai perché sono inutili i portatili? Perché prima me lo portavo al bar, ormai c'è lo smartphone che fa tutto. Insomma, almeno per vedere video, acquistare, navigare, fa tutto lo smartphone. Io da quando ho lo smartphone, il portatile è rimasto secco e pezzo sul tavolo. Quindi in effetti, se mai dovrò cambiare il computer e pigliarlo moderno, forse ha ragione Natalino a pigliare uno fisso, perché c'è un bel spazio dentro, ci lavori bene, lo puoi imbottire di roba, di RAM, di schede, capito? Guarda, io quando ho visto il portatile che fino a quando, dopo un anno, guarda, sono rinunciato. Non l'ho mai comprato, ma non l'ho comprato perché non l'avevo e non l'ho comprato. Ho preferito un fisso, con 600 euro ho un computer, guarda, che è una bomba. C'ha 8 giga di RAM e poi il resto non me lo ricordo, la disk. E quanto è, se il Miller, se quant'è. E ti dico che c'ha una velocità che è micidiale. Guarda, la verità, quel portatile me l'aveva regalato mamma nel 2005 e tuttora funziona. Certo, a HP è un po' lento, ma funziona sempre. Guarda, era veramente ben riuscito quel portatile, perché certi si sbacciano dopo un anno, due, capito? Però per fortuna mi sta durando, che sono già 12 anni, 12 anni buoni che è in servizio. Sì, vabbè, i pistini ce l'avevo io anche, però fisso, era molto lento come per aprire una pagina, molto lento, però già gli apparato. Però che a quello, a come ce l'hai tu, c'hai, non c'hai neanche un giga di RAM, quello lì, lui, per carità, aprirlo ci vuole ci vuole. Ebbene, avanti Natalino. Ciao Fra, buonasera, ben sentito. E allora, come stai oggi Natalino? Ehi, così così siamo. Vabbè, piano piano, vai, si guarisce. Piano piano. Io ho acceso letto, ho sentito voi, intanto mi sto preparando per uscire. Vediamo un po'. Avanti Marco. E io Fra. Sì, infatti quel portatile da, che ho. Natalina ha detto prova a mettere Windows 7. Ma ce l'hanno appena, se si trova la RAM, se si trova una bacchettina di RAM di quel tipo, perché sai, dopo pochi anni già, a meno che, vabbè, dice uno l'ordina da internet, bene o male si trovano sempre lì, roba avanzata di magazzino, o quindi portargli, mettergli un RAM di CD, uffa, un giga di RAM e provare a mettere Windows 7. Vedere come pompa, ah, vabbè il processore è quello che è. Non so manco che processore abbia, non mi ricordo il nome del processore, cosa poteva essere all'epoca, Natali, dopo te lo dico, aspetta che vado a guardare, aspetta. Io sarò un cedero. Che devo uscire, dai, è venuta mia moglie, dobbiamo uscire, ci sentiamo, ciao Marco, ciao Natalino, buon proseguo, grazie, ci siete dopo. Va bene, ciao Franco, buon tutto. Ciao Franco, se ci sei ancora. Allora Natali, AMD Sempron 2008 Plus. AMD Sempron 2008, 2800 più c'è scritto. Saper Plus, no? Eia, mamma mia, AMD pure, noi manchi Intel. Sì, vabbè, una scelta. Per esempio, via Bucari, chissà perché ti... spingevano, ti proponevano sempre in AMD, lo sai, forse loro si sono più specializzati in AMD, ma tu mi hai detto che Intel alla fine sono sempre più veloci, più performanti, infatti il prossimo computer sarà Intel, il processore, voglio provare, voglio cambiare. Gli AMD costano una cazzata confronto agli Intel, capito? Adesso ti faccio una domanda, Natalino, ma non è che a parità di potenza Intel lo paghi un bel nome, perché Intel, cioè tu pigli a due processori di pari potenza, no? AMD e Intel, non è che Intel costa di più e paghi solo il nome? No, no, è più potente e brutto. Certe cose che fa l'Intel, l'AMD non ce la fa. Ehi, nemmeno più spinti, non vi credo. Ci saranno processori al top di gamma dell'AMD, no? Ehi, costa una barca di soldi, però poi il più forte è sempre Guido. Rubio umano dell'AMD contro un i7, e l'i7 ruba a pezzi all'AMD. Ma è vero che è uscito l'i9? Eia, ma lascia perdere quei processori che scaldano una... la capisci, basta un i5 quad core fisici proprio, ed è un mostro. No, ma infatti costerà una follia. No, no, un i3, un i5 lo più che bene, meglio i5 però, è già un gradino più su, capito? Vabbè, non è per adesso, io te l'ho detto, io la priorità mia era piuttosto la moto che non il computer. La moto è... mamma mia, vorrei fare carte false, però mi vorrei vendere il Bipanda, gli Aesio, mi vorrei vendere almeno due baracchini, se non tre, pur di mettere in auge la moto, anzi, pur di mettere in moto la moto. Sì, me lo posso immaginare, io guarda me ne sono pentito, le mani mi dovevo tagliare. Quando io avevo quell'Aprilia 50 mi dici l'indratta, ma andava così bene, ui ui ui, andavo anche a fare la spesa con quella moto, ci avevo il bauletto. Guarda, ci stava una cassa d'acqua sulla pedana, anche a fare la spesa andavo, oltre a fare tutte le commissioni. Sì, sì, ci credo, ci credo. Certo, il cinquantino paga più di assicurazione, comunque sono dei farabutti questi alle assicurazioni, sono proprio... Diciamo il governo doveva fare dei limiti ai prezzi, invece loro non hanno limiti, fanno quello che vogliono i prezzi, capito? Oh, va bene, vedremo cosa ne esce, dai. Sì, però tu dovresti pagare sempre di meno di un 16enne o 14enne, a quelli li applicano il massimo, hai capito? A uno che ha una certa età per la moto, gli devono far pagare un tot. Sì, è vero, contano anche l'età. Perché i piccini fanno casino, si sbattono sempre, capito? Addirittura la... chi era quella cara? Unipol. 600 per un 125, 650 euro. Ho detto all'anima, tutti i dati possibili hanno voluto, anche il numero di mutande, la taglia delle mutande. Ah no. Ma io come ho sentito le tariffe sono sbiancato. Ma che ci sono mai? Sì, infatti, bisogna farci un giro per le assicurazioni e tu vai dove cazzo vuoi. E io. Va bene, computer già posso aspettare, perché te l'ho detto, aiuta molto lo smartphone, proprio stasera ho fatto un piccolo acquisto, comodo, veloce, cioè veloce, non è uno smartphone performante, ma per acquistare e pagare ci voleva un attimo, per dire, no? Alla fine i computer lì con Xfinity sto usando solo per scaricare film e telefilm. L'ultimo film che ho scaricato ieri era Stati di allucinazione dell'80. Ah, faccio. Già il titolo è tutto un programma. Invece il giorno prima mi sono scaricato Contagion, quello del virus della pandemia. E uia, la pandemia è giunta in Hog, in Corso Trinità. A proposito di tosse, questo sta sempre accendendo il camino sotto, cazzo, ma arrivo a questa puzza di bruciato, non basta la pizza che si è bruciata. Uia, va bene, no? Non vogliamo rovinarlo, perché sennò quello è un abuso edilizio fuori di testa, capito? Ma si vede il camino lì, ma si vede il camino, il barbecue, cosa cazzo va? Allora lui a pochi metri dalla finestra, dal terrazzino, dall'angolo, c'ha questa stanzetta, si è fatto la cantinetta e c'è il camino, e ogni volta che l'accende arriva questo fumo, questo odore di bruciato, proprio verso il palazzo, verso di noi più che altro, capito? Quindi siamo arrivati quasi al... stavamo proprio per mandare la lettera a tutti, al coso, quelli dell'edilizia, all'ASL, perché è una questione anche di salute pubblica, poi abbiamo lasciato stare. Però c'è quello a fianco che ha il dente avvelenato, quello che è a fianco a noi, ha detto che vuole fare la letterina, capito? Mandarla a tutti, al sindaco, al vigile urbano, perché quello è un coso, non si può fare di mettere il camino sotto la finestra delle persone, non esiste, non esiste. Io lo tollero, però cazzo. Lo so, lo stai tollerando, non lo può fare. Capito? Eia. Lo so. Vabbè, c'è anche il barbecue, lui c'ha di quei specie di caminetti prefabbricati col comignoletto, che compri da Brickoman, no? C'ha il comignoletto, ma è un vale più alla fine, no? Ci arrostisce la carne, eccetera. Diciamo, quando c'è maestrale arriva proprio il fumo, ma tanto noi abbiamo le finestre chiuse, la giardina certo un po' di odore filtra, perché qua le finestre sono vecchie, un po' di odorino di legna bruciata. No, perché se si vedeva abbiamo ubicato da sopra. Guarda, se metti una pompa col getto di acqua forse riesce ad arrivare, forse. Ah, glielo dirigi verso il camino, così gli scende l'acqua giù e gli spegni tutto. Cazzo, cosa è successo? Ma quello fa casino, quello fa casino forte. Ci mette a voci, a strillare che sembra una baldracca, capito? Quando gliene combinano qualcuna. A voci, è mezzo scemo. Poi è anche armato, è cacciatore, capito? E tu li chiami subito i carabinieri, come lui ha sa poco poco le voci, un attimo, fai lo sento dodici, vedrà la pinza rubusiti nei biliani. E a casa sua, sempre a voci, c'era sempre con qualcuno, con la moglie, col figlio, o con qualcuno al telefono, sempre a voci. Ma come si fa? Come si fa? Vabbè che anch'io sto diventando isterico in questo periodo. Però mi devo dare una regolata, sto diventando isterico e bestemmiatore anche. E mi devo dare una regolata. Se no mamma mi taglia i fondi adesso. No, le bestemmie lasciale perdere. Vabbè. Quando dico succede tutto a me, allora mi metto a invidia, a bestemmiare. Già lo so. Nei momenti di ira si fanno quelle cose. Ma basterebbe dire porco Giuda, sai, Giuda è il traditore di Cristo, invece no, io mi dico, proprio io me la prendo proprio col principale. No, io con la madre, che è peggio, infatti mia moglie mi fa pizzi. Guarda, su YouTube c'erano dei video intitolati Nonno Fiorucci. Nonno Fiorucci, le bestemmie che diceva questo uomo anziano, Gesù, contro Dio, contro la Madonna, ma cazzo è una cosa atroce proprio, e quello era un bestemmiatore professionista. No, io quando ero in momenti di ira lo facevo, ma me ne guardo bene, gatta, non va bene, no? E anche perché se la tua moglie ti accoppa. Sì, devo andare ancora a confessare quello che ho visto. Non ci sono ancora andato. Io non sono né cresimato, non ho fatto né la cresima né la comunione. Perché purtroppo non ci credevo e quindi non mi potevano obbligare. In effetti sì, manco non ti possono manco battezzare, lo sai che se tu non vuoi, te l'hanno fatto a forza, tu non lo sapevi se volevi essere cristiano perché eri piccolo. Eia, no, mamma mi ha detto, guarda Marco, se tu ci credi veramente, la cresima, la comunione, però se non ci credi è una presa in giro per la chiesa, allora non lo fare. Aspetta, sta squillando il telefono. Aspetta, lì che sto telefonando, che è la mia zia, dai, un attimino. Oh, Natalino, adesso mi devo incavolare di nuovo. E perché? Oh, sempre perché mia madre quando fa le telefonate con altre bocca fa danno. Vabbè. Dopo mi sfogo su di lì, dai. Se non si va d'accordo è inutile la chiamare, auguri per il figlio, cazzo. Vabbè, è una cosa nostra, dai, di famiglia. Mamma mia, cazzo, fa danno, mamma, con la palla fa danno. Poi c'è questa voce passata, mamma, perché senza denti. Sta diventando una maggiera. E vai, poverina, che è anziana. Lo so. Però glielo glielo ho detto, cammina malissimo per via di questa cosa alle gambe. Ho detto fatti lo stallo in valle, lo volevi fare prima, adesso no, non ha voglia di fare niente, né documenti né analisi, nulla, non ha voglia di fare niente. E a un certo punto io non è che la posso, che la, le posso puntare la pistola a testa per portarla a fare cose, esami, cose o richieste di invalidità. E perché gli fanno la visita, non ti crede che sia facile avere lo stallo invalidi? Cammina, quasi non cammina, è proprio invalida, cioè se lì scivola a terra a casa non si sa rialzare, nemmeno poggiandosi con le mani sul letto. È messa male forte, messa male forte. E siccome ha paura a operarsi, cammina tutta male, insomma. E vabbè, è invalida tutti, è già invalida, te lo dico io. Anche di capo. E lui ride. Vabbè, un po' così, un po' sventiato, un po'. Vabbè, purtroppo i genitori invecchiano. Magari io vorrei che fossero eterni e invece invecchia. E eterna non può, non c'è niente di eterno. Siamo solo di passaggio qua. Oia! Oia! Povero me! E beh, doppio Roma. Non entri più, ah? Non ti dedicare troppo a quell'attività, amiche, se lo diventi cieco. No, Marco, sono sempre di sera, capo. Oggi ero di mattina perché dovevo sostituire un collega che era in malattia. E poi domani di nuovo di sera. E quando sono di sera esco alle 9 non c'è più nessuno. Lo so, ah, quindi ho capito, ce l'hai di nuovo di sera. E qua c'è solo un tadino. Da quando dalle 6:30 ci saremo, dalle 6:30, una cosa del genere, siamo solo noi. È entrato Franco due minuti e poi è andato via. Non c'è nessun altro. Sì, perché non si deve la moglie, capito? E logico, ha detto se ci siete dopo, vediamo, ha detto. È entrato! Ha chiuso, subito, ha chiuso, due minuti ci è rimasto, ha chiuso, dovevo uscire. Pensate che stia bene, questo perché ho messo l'influenza, perché non l'ho più sentito. E a me in realtà lì mi hanno fatto queste scarpe ortopediche per il piede, queste invece bambine mi hanno fatto male, mi hanno fatto troppo i finti e mi ha infiammato tutti e due gli abici, c'erano tutti e due i busti. Che cavolo! Oh Gianni, ma te stanno finacciato me? Oh, yeah, lascia perdere. C'ho le unghie molli molli. Mi ha dato tutto quanto l'infezione, cazzo. Magari a loro. Adesso glielo portate e me le devono allungare e allargare. Cazzo. Ho tutto il vero cosa che si voti, non è che cos'è una linea. 800 euro. Cioè 800 euro per farci finire pure gli alluci in fusse. Sono dei cani, i medici sono dei cani. Sono poco più di stregoni, me. Ma ce l'hai, diciamo, pure. No, ma il medico non c'entra nulla, c'entra chi l'ha fatta. E mi ha dato la colpa perché ci che me l'ho messo tutto in una volta. Ma vedi, senti, le scarpe se non sono difettose non ti fanno nulla. Ti possono fare una buscica da rego, ma hanno fatto bene l'infezione dei due alluci dei piedi. Infatti, o è progettata male, boh. È un casino, boh. Sono ghiotto in palle perché sempre devo sentire casini per colpa di mamma. Boh. Dopo l'arrongio, dai. Dopo l'arrongio con calma. Nattalino. Oh, yeah. Mio cugino ha fatto un esame particolare, a giovane lo ricoverano e purtroppo quella è una cosa molto delicata. Ne fanno tante questi di errori. Oh, yeah. a noi, se no. Ma chi è che deve andare? Danni che due, sono giù perché tocca lavorare con questi piedi così, cazzo, guarda, sto trascinando questo piede, va bene che mi danno lì e basta. Non mi lavo su di una tarina. Una debolezza addosso, pure. E non si dice, lo sai che sono andato a prendere a Marco, che era un amico. Andare alle 6 e un quarto e sono arrivato alle 6. Cazzo, mi sono messo in macchina, mi sono buttato un video e Marco ha aperto lo scontro e mi ha trovato a domandare. Sì, tanto io sarò appoggata che zia. Non ho riposato oggi dopo pranzo perché prima è venuta quella del condominio, da voi l'altro, dopo ho accompagnato Marco, poi sono andato a riprendere, insomma. Poi sono andato all'ortopedico, ha portato con le scarpe, me le ha misurate, e te ha ragione. Però dice, tu li ha messi tutti in una volta, tutti insieme, tutti in una giornata. E come mi ha detto il dottore, di non togliermele mai da addosso. Cazzo, non mi dirà cosa lui. No. Tu dovrò metterle a poco, un po' un giorno, un po' l'altro. E alla fine le metti tutto il giorno, però metterle tutte le ore insieme va male. Io l'ho messa anche per lavorare, figurati come ha detto il dottore, cazzo, mi ha aggrappato, non riuscivo più a muovermi, a fare il bel del mare di biglia, tu io qua non ce la faccio più, mi sono dovuto sedere. Sì, va tu, in modo che già ne vicchio, in condizioni sì, questi gran bastardi. Me ne avrei fatto la vergogna di far lavorare una persona ridotta in quello stato. Sì, ma non dipende, dipende dall'Ips, se non mi dà depressioni cosa vuoi? E loro mi hanno detto, cerca di fare domanda di pensione, cose, noi non ti possiamo fare nulla, dice meglio che per pensione piuttosto che ti vogliamo via noi. Capito, gira e gira, la colpa è tua. Ovvero un medico dice così, l'altro dice il contrario. La mano destra non sa quello che fa la sinistra e poi la colpa la danno a te, capito? Che le risate sempre. Mi ha detto di togliermi le carte e di farle respirare, quindi tutto qui e così sto facendo, ma insomma mi pare che uno dice la sua da voi, in conclusione lui mi dice che è uscito, è quello che non vedo miglioramenti, è sempre muore al centro. Si chiude, si riapre questa ferita, Gesù Cristo mio. Lui a me non mi ha dato retta, dottore, quando mi ha operato, gli ho detto chiuda tutto, dottore, no, che quello lascio per drenare, se lo chiudo magari se c'è il liquido non drena. Infatti, chi si è rimasto sempre a viso? Certo, in 2 settimane era stato chiuso, quello che ha messo in piedi, quello lì è rimasto aperto. Quanti sbagli che fanno questi qui, io sicuramente mi chiedo a Ruccio la laurea. Cazzo, lasciamolo per drenare, lasciamolo una settimana e poi chiudiamo, no, invece me la lascia da vito. E più lo lasciamo aperto e più si apriva questo stare, si è formato un buco di due. Ti ho fatto vedere bene come ti prendi già fatta su. Mamma mia, già, se la stanno proprio facendo sputare questa pensione lì. E non me ne dà, sciogli. Ma chi non te ne buoni dà? Così è, non gliele possono dare. Cioè deve morire, deve farsi affondare i piedi sul lavoro, dice. È vergognoso comunque, ciao Claudio. Scusa, posso andare? Se lui vuole andare, può andare. Con la pensione di validità, però, evidentemente sono cose che non vanno bene. Ma per il resto, se non ce la carta oramai, capito? A me mi è arrivata la lettera venerdì, capito? La lettera venerdì, 8 mesi devo fare ancora, 8 mesi, capito? 8 mesi, 42 8 mesi, capito? Quindi 8 mesi, però io ho già fatto fare i conti, adesso la prossima settimana faccio fare il bonifico dalla banca e me li riscatto gli 8 mesi, ma così non me la può più le palle. Ma Claudio, non avevi raggiunto il periodo giusto, scusa, non avevi fatto fare i conti? Sì, ma purtroppo c'è stato un errore, 42 8 mesi, capito? Ma conoscere 10, però due a me me li hanno abbonati per cose mie personali, e quindi 8 mesi, adesso ho fatto fare già i conti, ho fatto un atto proprio stamattina, in settimana faccio fare il bonifico dalla banca all'Inps e così ci diamo tutto e non voglio più sapere niente. Vado col massimo dei voti, proprio col massimo, addirittura con 150 euro in più oltre quello stabilito. Ma devi versare i contributi di 8 mesi così? Sì, sì, devo versare 7.562,50. E ti convene? Mi convene, sto usando una colonna a travagliare, sarai già un gabudu. E certo che mi conviene. Faccio, fatto, anzi già fatto, lo faccio, fatto, anche perché quei 7.000 euro tiro mi vanno al retributivo di oltre 150 euro in più, quindi vado a prendere quasi 1.600 euro di pensione. Sì, già va bene, ma è strano, che se ho fatto tutti come conteggi, come li fanno questi conteggi? Dovrebbe essere 43 anni di anni, e ci sono rientrato nei 42, però mancava qualcosa che non mi quadrava. E infatti mi è arrivata la lettera dall'Inps, perché io il 2 gennaio ho preso la pensione, ho preso quasi 1.400 euro, capito? Ho detto no, qualcosa non mi quadra, perché i conteggi pensionistici, l'importo non era quello, e infatti lunedì. Mi è arrivata lunedì, venerdì mi è arrivata la lettera che mancano al contributivo mancano 8 mesi e qualche giorno, cioè, ma riuscire, vabbè, la mattina mi ha fatto un atto, ci ha mandato le mail, già tutto, conteggi già fatti, questa settimana chiudo e faccio fare il bonifico dalla banca e così mi danno anche gli arretrati di 2 mesi. Questi soldi li devo restituire, questi che ti hanno dato di pensione. Devo restituire. E a chi voglio dire al gruppo? Io sono per pensione col massimo dei contributi, capito? Altri, glieli sto pagando per non lavorarli, perché oramai sono andato via, la faccio. Quindi me li pago questi 8 mesi e basta, capite? Ah, ecco. Vabbè. Che la vedo se non dovevi pagarmela. Sì, vabbè, già a me ha fatto nulla, soltanto io sono sereno, tranquillo, ho già preso la pensione, il 2 gennaio, mancavano 15 euro, 18 euro a 1.400, però non mi quadrava perché era molto di più, infatti non ho fatto un forfetto, però mi hanno detto che adesso con il versamento io farò il saldo dei contributi, mi danno anche la differenza praticamente di 300 euro, che sono 150 di gennaio e 150 di febbraio, capite? Vabbè, cioè 150 di gennaio e 150 di febbraio, comunque la conteggio è fatta già, io mi giocavo le pensioni con 1.700 mesi e sono più che soddisfatto, ma non soddisfatto, più che soddisfatto. Sono come un pesce, questo mi dispiace dirlo perché sento, ti ho sentito ancora lamentarti con questo piede, però la decisione aspetta a te, o te ne vai con i contributi che hai e l'invalidità, quindi ti prendi quello che ti danno e poi aspetti all'età Gianni, non so cosa dirti. Se avessi avuto 42 anni in contributo l'avresti detto io da domani mattina non ci vengo più, ciao a tutti, arrivederci, però purtroppo ci vogliono per andare via con la contributiva, non con la retributiva, quindi senza l'età ci vogliono 42 anni e 10 mesi, 10 devi fare, 42 e 10 mesi, se no, no ti, ma, non canta messa, non si canta messa, vedi a me, ero convinto con 42 di poter andare e invece mi sono dovuto riscattare 8 mesi pieni, perché 2 mesi li avevo fatti con un'altra, il passaggio praticamente che ho fatto da mano alla ciofa. Vabbè, fate girare, io sono rientrato adesso, buonasera a tutti. Eia, oh Claudio, ma come mai è saltata fuori adesso questa degli 8 mesi, dopo tutti i documenti che avevi fatto, cioè sapevi già di essere in pensione, sono sputati fuori gli 8 mesi ulteriori? C'è stato un calcolo, spiegato quello del patronato, ma non è neanche colpa loro. È praticamente l'Inps, quando abbiamo andato i conteggi, non ha valutato il militare in una maniera praticamente diversa da quella che doveva essere, capito? Perché io ne ho fatto 24 mesi di militare, però contributivi sono solo 12, capito? Sono solo 12. E quindi c'è fatto un po' di casotto lì, ma non è un problema, io sono già in pensione, tutti le figli ho già presa la pensione, il 2 di gennaio, perché il 1 gennaio era fretta, il 2 gennaio l'ho già presa, quindi non è che mi hanno tolto niente, mi hanno solo detto se volevo riscattarmi o se praticamente entro l'anno riuscivo a fare 8 mesi di lavoro, io 8 mesi di lavoro li posso fare, ma non li voto perché non me la fotti nulla, non mangi più gara lì, devo rientrare perché io chiamo l'azienda e domani mattina sto andando a lavorare, ma non mi interessa più, siccome lo posso fare me li ho riscattati e basta, oramai sono in pensione, rimango in pensione. E non glieli faccio il chigno, te, mica torno a lavorare, te. No, ho detto Gianni per risparmiare questi 7 euro, ma non me ne ha fatti nulla, l'ho fatto e basta, ormai è tutto fatto, adesso ho fatto un altro, vado direttamente mandato alla banca, in settimana fanno il bonifico all'Inps, poi mi arriverà la ricevuta di versamento contributivo, la leggo a tutta la cartella ed è fatta, ma via vai, e poi rientrare adesso, ci mi prendo in pieno. Marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, ma no, sarà. Ho raduto il figlio della Vagliendi, ma per cosa? Ma per che cosa? Ma non te ne vai. Lo posso fare adesso, l'ho fatto, ma c'è niente. Non mi fanno né ricco né povero, se mi dai, se non mi dai culo. Vai Natalino. E vai che sto cenando. Vi ascolto, già rientro su. Natalino, ma questa voce, come mai non si è ancora chiarificato? Negativo, negativo. Già migliorato, però siamo al 50%. Ma non ti avrei chiamato le cose per provocare, non ti fa vedere. Cerco magari mi biglia, mi viene di un raffreddore e Iara, figurati. Cazzo, io non voglio uscire per non fottermi. E non uscire, no, così. Perché mi ricordo che anche in giugno ne facevo questa cosa, di schiarire la voce, di si abbassava. Sì, vabbè, mamma mi ha detto la guida di autobici, un gatto di influenza, mamma mia. Meglio la morte. Che brutta, c'è cioè, un che ti è malata la luna. Non ho detto che è molto brutta come influenza. Brutta solo, Si su te ti sento, non hanno ricoverato in cusenzu. Dimmi tu. Allucinato. Ma insomma, non ricordo se è scappato. Mamma mia, che mi ha giù passato avvea. Non potevo mangiare. Perché sentivo l'odore, cazzo, della gente che cucinava fuori. Io mai sentito a chi fumo. Cazzo, pigliavo qualche cosa, la sentivo o troppo piccante o troppo salata, ero diventato ipersensibile, non ero mai niente di nulla. Solitamente quando la febbre siete tutti insieme, no? È strano, vabbè. Interessante che sia passata adesso. La da chipirina era, mi aveva avvirinato lo sangue. Mi aveva giubilato troppo e mi ha fatto vita ipersensibilità. Ed io senza mangiare. Dimmi tu, sto mangiando adesso, mi fa cosina. Stando sempre attento a chi cazzo si lascia la notte, avevo mobiliato la faini. Sarì da dramma, ma la intendio io. Allora. Allucinata, e non era sala. E no che no, andava bene. Solo che io cazzo da me non intendi così. Ma cosa sai tu, con te? Oh, comunque fatti tardi che era dramma, a me. Allucinata. Ehi, un attimino, tipo può suonare in strada, credo. Forse la mia macchina che entra al giallo, invece no. Bene, ci va male. E purtroppo vuoi beccare a me. Ho letto un'influenza abbastanza frequente questa. Dovrebbe venire dall'Australia, abbastanza frequente. Mamma si è vaccinata perché è anziana, se no. se no ci lascia le penne. Io se le mi becca purtroppo me la devo grattare e devo aspettare che faccia il decorso. Tutto il decorso, capito? Ma il vaccino l'ha fatto? Sì, lei sì. Lì perché è anziana e più a rischio. Io non le faccio mai, però ne più mai influenza, strano. Ma anche io ne faccio perché non mi attacca a me il vaccino. Oh ya, se arriva il vaccino arrivi da tre voci, il cane. Ma tari, mamma non faceva il vaccino, li veniva più passa, ma li veniva. E anche a me, non mi attacca. A me e a mi venia. La volta che mi ha preso la dottoressa nostra, quella sotto casa tua, quella lì mi ha preso a forza e mi ha fatto il vaccino. L'hanno l'ho presa tre volte. Ma proprio lo vuoi avvare, mi stava cercando di convincere, ho detto di no, che ero contrario al vaccino. Ma perché? Perché sì, perché il vaccino fa più male che bene. Eppure è strano, perché il vaccino dovrebbe immunizzarti. Cioè introducono virus morti nell'organismo che vengono, diciamo, attaccati da, dalle difese immunitarie e poi riconosciuti. Cioè, vuol dire che sono ceppi diversi, perché poi cambia bene, molto bene il virus dalla, dal punto d'origine fino alla diffusione mondiale. E quindi se non ti becchi un ceppo ti becchi l'altro. Natalia, cosa ti dica? Tu te ne sei presi tre, così è. Oh, a me mi ha fatto diarrea, a me moglie diarrea e vomito. Sentivo cazzo l'odore che c'è un fiago buono di minestrone, cazzo da vura. Chissà onde erano i cuzzinelli. E io non ho sentito odore, perché se fumo è più attenuata la cosa. Nulla, lo sentivo cazzo a manetta l'odore. Marco, io ho seguito dei programmi dove si parlava di vaccini di tutti i tipi, no? E questi vaccini che fanno i bambini, molti sono diventati autistici dal vaccino, molti paralitici, eccetera, eccetera, dovuto tutto al vaccino, capite? Quindi io dei vaccini ho sempre, ci vado con cautela. Quello è vero, i soggetti, non lo so, allergici, ha avuto effetti brutti, anche avevo visto anche una ragazza che aveva preso quasi l'uso delle gambe, poteva camminare solo con le zappelle, e ciò già, se conta, se non avessimo mai fatto vaccini nella storia, o almeno noi da piccoli, se magari ci beccavamo la poliomielite o cose, il vaiolo, io te lo raccomandomi. E quelli sono obbligatori, lo sai che per Marco ci hanno chiamato da scuola perché dice che mancava un vaccino e doveva farlo, ho fatto la fila, sono andato sulla vestibola dopo fare il vaccino, ho fatto la fila a casa di quasi un'ora e dopo mi dicono ma il vaccino il ragazzo l'ha fatto, come elenco a scuola, il vaccino l'ha fatto. Questo qua, solo che questo dottore dice c'ha dei glieroglifici e non tutti lo capiscono, però questo qui è il vaccino che loro stanno dicendo che non ha fatto. È stato fatto tranquillamente, lui li ha fatti tutti il vaccino, non deve fare nessun vaccino. Dopo un'ora... A te immaginate? È bello che ci ha dato il sottoscritto perché la mamma stava lavorando e quindi ci sono dovuto andare io, ci ho perso la mattinata, capito? Sì. Io mi ricordo che quando ero bambino io si faceva d'ufficio il vaccino, veniva l'ufficiale sanitario e vaccinava, non sentivo tutte queste polemiche di adesso in televisione, poi lo contrario del vaccino, i genitori non vogliono vaccinare i figli, anche perché poi se i figli si ammalano di roba brutta, infestano mezza città, capito? Possono contagiare gli altri, non lo so. Comporta qualche rischio, ma i benefici sono altrettanto grandi. Poi ci sono state infermiere che facevano finta di vaccinare le persone. Quella, se sei contrario al vaccino non si può esimere da vaccinare le persone che, o i bambini che si vogliono vaccinare. E vabbè. Adesso diciamo i genitori sono contro di tutto, capito? Decidono che voto deve pigliare i figli a scuola, se no fanno casino ai professori. Sono contrari a tutto adesso le persone. Sono contestatrici, non gli va bene niente. vaccino né i voti del figlio, ho capito che vengono a farti lo scandalo se non gli hai dato 7, ma roba da matti, oppure vanno a picchiare il professore. Me. Quelli sono i genitori che devono essere frustati sulla pubblica piazza. Ma adesso c'è la protezione per i figli e prima magari facciamo quello che dice, ma non basta, non è questione di quello. La questione è che i vaccini sono quelli obbligatori che devi fare per forza di cose, sono per legge che devi fare qui. Però poi altri vaccini, se tu li vuoi fare, poi se no, no. Io per dire, ho fatto quello, l'antitetanica, ho fatto il richiamo, io per 10 anni sono immune, e ho fatto quell'antitetanica perché? Perché mi è entrato quel vetro nel piede, io pensavo solo per il ferro, invece mi ha detto che il vetro poteva avere anche terra, era in mezzo alla terra, quindi poteva avere terra, erbe sporcate, cose, e tipo venire in tetano, con queste cose qua. E me l'ho fatto fare l'antitetanica. È meglio già, molto meglio, sì, perché le spore del tetano si possono trovare dappertutto, per terra, anche che vagano in aria, perché sono una cosa infinitesimale. Per terra, nella polvere, insomma, è sempre meglio. Basta anche un graffietto, infatti io me la vorrei fare quasi la l'antitetanica. Meglio sempre farcela. Vai Claudio. Adesso se entro a lavorare mi tocca farmela. Perché mi è scaduta, a me 10 anni dura, quella che avevo fatto io. Tutte così sono andate, anche la mia, 10 anni. Eia, ma non ce n'è una definitiva, no? Che dura vita, no? No, non ho 10 anni a fare il picchiato. Che paranoia. E vabbè, che paranoia. Ah, noi ci controllano, capito? A me, quando io adesso, se dovessi entrare a lavorare, mi controllano e vedono se l'ho fatta e se è valida e mi manderanno a farla perché io c'ho il libretto. Ci avete chiamato, mi ero allontanato un attimo. Eia, sì, stavamo parlando di vaccini antitetani. Io credo si facesse con i richiami e poi diventavo immune a vita, invece no. Ogni 10 anni bisogna andare, farsi l'iniezione. Io non sono... Mamma mia, gli aghi non li sopporto. Una cosa che non sopporto sono gli aghi. E vabbè, io li ho fatti per lavoro, li ho fatti l'anno scorso, quindi li ho fatti tutti, anche richiami, tutto, e sono a posto, però il raffreddore, come diceva Gianni, no, non c'è niente a fare, quando ti viene per fare il soccorso e basta, e poi si finisce lì, perché io l'ho preso, a casa l'abbiamo preso tutti, 3-4 giorni brutti, poi è iniziato a calare, tutto a posto, e poi vabbè. Senta, chiaramente imbottirti di medicina alla grande, capito? Cioè, ti ho mandato una foto, non dire niente, dove sono le ultime due arrivate. Caspita, la Natalina invece l'ha disintegrata questa influenza, cioè l'ha disintegrato proprio. Vabbè, evidentemente l'ha trovato debole in quel momento, anche mia moglie. Siamo dovuti rientrare, eravamo fuori, siamo dovuti rientrare, per il Natale è passato un fine anno da cani, capito? A letto, la febbre, nausea, capogiro, vomiti, di tutto di più, e quindi lascia perdere, già lo so, se ti pizzica, se poi la persona è debole, magari ha pizzicato Natalina un po' debole, capito? È la crepata, ma piano piano già si riprende, Perché hanno detto anche che è molto brutta, è la più brutta degli ultimi 10 anni, questa influenza, forse anche di più. Lo so. Guarda che sono andati in 700 al pronto soccorso per l'influenza, 500 ne hanno ricoverato, dimmi tu, così è che avviro. Allora, guarda, al pronto soccorso ci lavora un carissimo amico, ci siamo visti da poco dopo Natale, mi ha detto che praticamente ci sono stati 1800 interventi, tra ambulanza e gente che è andata in macchina, insomma, e ne hanno ricoverato solo 500 perché non c'era posto, c'era pronto soccorso pieno, 1800 interventi tra Natale e fine anno. Io domani che venisco bello qua, ha pizzicato a me e a mia moglie, a chi da vomiti, a diarrea, l'ha uccisa. Però si è ripresa prima di me, a me mi è rimasto, io ho solo questo abbassamento della voce e basta, non c'ho altro, però non sto uscendo, a chi si esce mamma? Lo so, molti erano in corsia, Marco, molti erano in corsia, hanno passato la notte una barella, e non mi rimango a casa. Perché quando sono pieni non sanno dove metterli. E va a finire come vedi al telegiornale, ti lasciano in una barella in corridoio, con la gente che passa, magari tu stai male, vomitando, ti vedono tutti, no? E allora me ne sto a casa e me la faccio a casa. Certo, se uno si sente talmente male da dire voglio l'ambulanza, vuol dire sta male veramente. Non sia che la febbre salga troppo e non scenda, perché è pericoloso, mi sei. Se sale che adesso a 42 tende a non scendere, può essere pericoloso. Vabbè, tocchiamo ferro. E non solo. Adesso me ne sto con la mascherina a vita, così non me la becco più. Pensala così tu, la di grippo così, se con la mascherina se sta dimizzicando, ti mizzicate. Nell'aria è un virus, me. Ma l'ha compreso. Che pittina. Io già pensavo che crepavo di quanto mi sentivo male. Ui. Uno sfogo mi è uscito da tutto quel cazzo delle medicine, non ne biglio più di chissà da che pirina, ma ammazzato. Eia, ma cioè uno sfogo inteso un rash cutaneo? Dove ti è uscito lo sfogo? Nel labbro superiore mi è uscito, sfogo cutaneo proprio, ma guarda, a forza di burro cacao so candente. Dì la verità, che faccia da te a Concetta che ti è uscito perché ti sei scaldato il labbro. Vai, vai, Paolo il caldo, mi Paolo, Gianni il caldo. Altro che burro cacao, Natalia, mettiti il rossetto. Allora, le calze a rete mi metto. Poi vado e me la faccio mettere nel derettano. Mamma mia. E tanto mia, questa vecchiaia ci vuole. La vecchiaia ci vogliono tante cose, e io se vuoi va, vabbè. Ma ti va per ricoverete tutti i casi. Mi lascio, mi. Vera che tu Giuseppe, capa, che mi vuoi dare la supposta bella non per giunta da mini, ti immagini, cioè, se tu vieni a me mi serve una supposta bella grossa, nulla, non c'è venuto a darmene, no. Prima dicono che fa bene, che questo, che quello e poi non te ne danno, boh. Non mi dica che hai che si vogliono, ciao Massimiliano. Ma vecchiaia, vuoi provare a mettere emozioni? Ci vuole quella dell'asino. Ciao Massimiliano. Sì, buonasera a tutti, guarda, vi stavo ascoltando, che paura che ha, mamma mia, che ho detto. Ciao Massimiliano. Ehi, guarda, vi ascolto che mi sto preparando il caffè, va, ci sentiamo dopo, che mi sto preparando per andare a lavorare. Vi ascolto volentieri, comunque, va. Ehi, ciao Massimiliano. Buon caffettino. Santarino mi sembra che vuole provare nuove emozioni, a Bicciaia va, devo provare tutti, no? si deve avere tutti gli sfizi. E allora, tutti gli sfizi mi piglio adesso. Ma chi era quel cuoco male di Massimiliano? Ehi, il caffè si sta facendo, quel cuoco male. Lo dico a tutta chi. Durvidia, hai mai fatto? Ti immaginate questo Gianni il caldo qua? Ma è diventato Gianni il freddo anche lui. La vecchiaia. Massimilia, caffetti sei biglietti, biglia. No, sempre caldo sono rimasto io, sempre caldo. Sì, vabbè, la vecchiaia si diventa anche freddo, sapete. Vabbè, mi accende sempre la donna. Vecchia volpe. E come per me è come se avessi, come si chiama, ma non lo ricordo, Gaiette. Sì, il giorno che lo trovo a Contacchinza, Gianni, gli dà il tanto. No, Contacchinza devo presentarti io. E quindi? E quindi tu dove vedi? Il parente dici, la nottata? Sì, mio, ho finito, mi stavo ascoltando, nel frattempo stavo cenando, c'è anche il sole, mia moglie, era qua di ballo, c'era la figlia. Adesso mi sto preparando il caffè, cioè veramente me lo sto bevendo il caffè, adesso mi sto preparando la caffettiera. Ma saluti, per la cosa è bella, va. Sì, già va bene, già va bene. Cappa cappa. Avanti Marco, riprendi. Eia. E vabbè, quindi... Quando viene pazienza, peccato. Comunque dicevo Claudio, con Natalino, quando non c'eri ancora, che in Giappone, in Oriente, in Corea, hanno la cultura comunque della... la mascherina, ce la mettono contro lo smog, ce la pigliano, ce la mettono anche quando ci sono epidemie di influenza, per non pigliarsi l'influenza, qua non se ne mettono, non se ne mettono almeno a Sassari. Se sei esci con la mascherina ti pigliano per appestato, boh. Non so, è una cultura diversa, capito? Usano anche l'ombrellino per il sole, se per questo. E loro usano anche l'ombrellino per il sole, se per questo. Vabbè, sicuramente. Sicuramente, va bene, va bene. Capito, Gianni? Ho rimesso un po' in piedi alcune cose che mi mancavano, ma va bene. Ma io ho sempre ragione, che quando tu dici non me ne piglio qua, basta, non me ne piglio più. Vabbè, queste ci volevano già. Ci volevano, Adesso siamo al completo, sto alla grande. Poi ci vedrà, non è detto che... Però adesso abbiamo fatto anche questo. È molto bello. Vabbè. Ok, che ora è? Oggi sono uscito prima, portare il cane, perché ci avevo gente per la casa, tutta la sera, la mezz'ora. E adesso lo fa. 8-10 c'ho io. A Pippo sceso, va. Cosa Marco? Ehi, a 8-10. A Filippo sceso, va. Sì, alle 7 l'ho portato oggi. L'ho portato alle 7. Quando ho sollevato il volume era tutto acceso qua. Ho sollevato il volume e stavo appena rientrato. Perché alle 4, alle 5 c'avevo gli appuntamenti per la casa e quindi ero impegnato. Ma visto che ero già cambiato vestito, ho detto ce l'ho porto. E così mi sono liberato. Ma anche su Facebook l'hanno messo quello quello che stavi dicendo l'altro giorno dei trasporti. Sì, beh, ormai è ufficiale, non c'è niente da nascondere. 4 so. Sì, ma non è finita, buonasera il progetto tra poco. Già lo so. Ma poi tu hai rubato nome, là ci sono le arresti domiciliari. La giustizia è fina, a me sai tutti i circuiti, ma la giustizia è fina, prima o poi li sgama. Un distribuito a Valdezza non si buffoneggiano. Ma ci dovevano trasferire in realtà di quelli lì. Poi che fine hanno fatto, quei palazzi che hanno fatto lì via Milano? Non lo so se si sono trasferiti. Comunque, già stanno operando ruote pulite, operazione invece di mani pulite hanno avuto ruote pulite. Ma cosa c'è? Qualcosa? Cosa ha inquisito qualcuno al ministro dei trasporti? No, ditta di autotrasporti che facevano camuffa. Ma a Sassari? Sì. Oh, come mai non ho visto niente? Ho visto, ma gente che faceva camuffi assicurativi, cioè quello l'ho letto. No, proprio non pagava i dazi. Avevo trovato un metodo insieme a gente che lavorava lì negli uffici, come si chiama, si pagava le tasse, per non fare le tasse. Non c'è solo quello, Gianni. Non c'è solo quello, non è il luogo per parlare di queste cose, ok? Ma ci sono cose molto molto molto delicate, perché se entra lì in quel contesto, in quelle cose che ancora stanno tirando fuori e controllando la bancarotta Florenza, qualcuno ci fa la galera e non esce più. Claudio, non è il nuovo per parlare, io cito il giornale, cito sulla roba Sardegna, quindi è pubblica la cosa, non è che sia una cosa da nascondere. Vabbè, ma è brutto, sembra che stiamo facendo questo sui problemi degli altri, no? Non mi piace, anche perché è una persona che io ho visto il 6 gennaio di sabato mattina, ho preso il caffè con lui, quindi, perché era tutto chiuso, sono andato a prendere le sigarette lì, c'era lui, ci conosciamo benissimo, non bene, e quindi ho avuto modo di parlare dopo. E anche un mese l'anno è successo questo patatrac. Vabbè, comunque, ripeto, se stanno ancora spulciando, prima erano 2, 3 effettivi, adesso sono già diventati 4, penso che si arrivi a più di 4 e se la Guardia di Finanza le contesta la bancarotta Florenza, visto che i soldi sono stati portati all'estero nascosti in società fantasma, sono cacchi da cagare per quelle persone. La cosa brutta è che i 2 prenditori di Sassari, che sapete chi sono 2 prenditori di Sassari, sono 2 che lavorano nella propria azienda, nelle cose, ma tu, dipendente dello Stato, che lavori all'ufficio delle entrate, hai perso il posto di lavoro per che cosa? Cosa ti è entrato in tasca a te? Cioè, è quello che voglio capire io, capito? Grazie, se non fai niente nessuno, vuol dire che cosa in busciacca era l'entrata, Rugito? Non ti preoccupare. A chi si cosa era grazie se non sei buoni va? Le bustarelle le avrò dato. Ok, ma le bustarelle finiscono, Gianni, adesso non se ne goda neanche della bustarella, capito? Perché essendo l'artefice di tutto ciò, io posso anche dichiarare, io lo vaso il fisco, perché sono andato da questo signore a chiedere informazioni e lui mi ha proposto questo, carte alla mano, mi ha proposto questo, e io, siccome è un funzionario dello Stato, e questo ho fatto, hai capito? Cioè, secondo me la condanna principale la prende quello dell'ufficio delle entrate. Ma è un ufficio pubblico ormai. Diciamo, è uno dei promotori della storia, perché se non fosse partito da lui non avrebbe potuto fare niente. Loro ci sono stati al gioco e via. È andata così, purtroppo, oddio. La giustizia è fina, ne pensa una più del diavolo. Là. Ci sono persone che sono molto astute, io qua lo so perché ho parente che ispettore della finanza, quindi me ne ha parlato di certe cose, ci sono addirittura all'interno ci sono dei tecnici che praticamente sanno scopare hacker, sanno entrare negli uffici, fanno tutto. Lo so. Vabbè, già la gente vade, ma se uno Stato non fosse così canaglia, così ladro com'è, magari la gente vaderebbe un po' meno, o non ne vaderebbe. Poi vergognoso se si sta fino alla proprietà della macchina, tassa di proprietà, sulla casa, sul tutto ti tassano, capito? Come se, non lo so, già lo sai come la penso io, no? L'Italia è uno Stato proprio miserabile, che va quasi contro il cittadino, senza quasi contro il cittadino, uno Stato canaglia. Ma purtroppo per questa gente che vale che paghiamo di più di tasse, cioè la gente che vale poi ti aumentano le cose a te. Per questa gente qua ci rimettiamo tutti, invece se ognuno facesse l'onesto che pagherebbe quello che c'è a pagare, come pagano chi è dipendente, che vi tassano e non può sfuggire da lì, vi tassano e quello che è, io pago anche 300-350 euro di tasse lì, e non ti credere che non è facile le tasse. Sì, vabbè, ma anche se pagasse tutti, lo Stato ha sempre fame di soldi, capito? Poi dice lo Stato siamo noi, no, lo Stato è praticamente formato da un gruppo di tante persone col culo al caldo che giocano un po' con la vita che ho degli altri, quelli al governo, quei magnaccioni, capito? Vabbè, dai, non voglio inferire. Signori, sono le 8 meno quanti, 2 minuti, mi voglio vedere un telegiornale, dai, vi saluto. Ciao Claudio, Gianni, Natalino, ci sentiamo domani, tocchiamo ferro, se Dio vuole. Se i carabinieri permettono. Ciao Marco, buonanotte, ci sentiamo. Buona visione. Avanti Claudio. Ciao, chi è andato via? Marco, buonasera, ben ascoltato, ci sentiamo alle prossime. Avanti Natalino. Ciao Marco, alle prossime. Comunque non carabinieri permettendo, influenza permettendo, dai, ciao. Non ti rabbricano se ti venghi a vero, mica è fea Marco. E cosa faccio qua Natalino? Mi metto in uno scafandro tipo palombaro. E vado in giro così, non mi viene, c'è nulla da fare. Ciao, non mi ci fanno pensare, ciao. E tu già portato là il cane? Ma io sono uscito stasera, l'ho portato lì al quadrato, dove, di fronte al Cappelli, dove c'è quel prato. E l'ho portato lì verso le 6:30, così. Poi sono andato a prendere Marco, che era un amico. Poi sono andato a casa, però lo riporto però verso le 9:15, va bene. Tanto domani non lavoro di mattina, quindi se non posso farlo. Ma non tornare acciaio, perché io poco fa, quando stavo rientrando, stelle non se ne vedevano e si vede che è nuvoloso, perché era troppo pioggia, quindi ti vuole acciaio, approfittano, se non sta piovendo, portalo e si abbiglia in luce. Quello che sono le 9, sono le 8:30, sono le 8. Io ho provato prima per quello, capito? Perché siccome sta sempre più vigilando, un po' piove, un po' piove. Quindi non stava piovendo, allora l'ho portato, perlomeno nella parte alta qua era stasera così. È uscito uno straccio proprio di sole e poi nuovamente nuvoloso, quindi. Va bene, avanti Natalino. Claudio, poi. Come va con questo del microfono? No, ma ci vediamo, è cupa. Ah, ok, va bene. No, lascia quello che c'era, è meglio. Ok. Questo è più vigilato, Claudio. Ma è tutto di barriata, di 2:30 che non voleva vita. Stavo scendendo a toccare proprio il portone e ha cominciato a barriare. Sì, ma anche qua stamattina è uscito mia moglie a mezzogiorno. Siamo andati in Piazza Lessini, facevo la presa un po' di verdura, un po' di frutta, altre cose, eccetera, e ha preso solo la verdura, in fretta, la frutta e siamo andati via, io l'ho aspettata lì al bar del quadrato e siamo andati via, ma andava più o meno a 2:00, capito? E poi siamo rimasti a casa, niente. Ciao Giuseppe, buonasera, ben sentito. Ciao Giuseppe, un abbraccio grande, ci sentiamo. Via, già siamo Ginoghe, vai già. Tutto bene? Senta Gianni, cosa ti ha detto? Tutto bene? Dai, interessante che ti sia ripreso, dai. Ci fa piacere averti di nuovo tra noi. Ciao Giuseppe, se mi ascolti. Hai sentito Peppo? Adesso arriva anche più forte. Beh, dopo quel lavoro abbiamo fatto, certo che sì, no, è abbondante qua. Ehi, ti ha salutato anche Natalino, deve avere un po' di QRM, che lì dove c'è lui, mamma mia, sono quei frighi del supermercato che lo ammazzano. E poi sto uscendo anche con 5 watt, io capito, no, già lo sai che se altro disturbo. No, ma già ti sento, io ti ho sentito l'albero lì da casa sua, capito, perché ci sono i frighi del market, lui c'è il market proprio attaccato, ci sono i frighi esterni, ricondizionatori, balle varie, c'è una gabbina tutto del supermercato, fa delle scariche allucinanti, capito? Ah, ho detto, beautiful, non entra più. No, beautiful mi ha tolto anche l'antenna. Mi dispiace, perché a me la lasci in pace che ci faccia bambini. No, mi ha tolto anche l'antenna, no. Non sono riuscito a portarli via il 440 che gli avevo dato io. Capito? Ho detto che non va niente, se l'ha conservato e te li dico per fare l'armadio, giù tu usci, fra un anno ti levanti lo gommo, vabbè non mi dica a me. Ma perché non la rimpiazza l'antenna? Non lo so, ha detto non deve piazzare niente adesso, non lo so. Vabbè io ce l'ho il 440, quindi ce l'ho di nuovo 3, quindi non è che mi interessa. l'avrei usato, no. Ma non per darlo a te, per carità, ma no. Non voglio avere qua, dice, a volte lo accendo e accendi tu. Ma perché c'è l'antenna che già lo accende, non so. Ma no, perché l'antenna era andata in corso. Nessuno era andato a dare una mano, quella è allora. Un maestrale mi sembra che aveva piegato il tubo, salito sopra, ha pigliato un lucighetto e ha detto una sigata di tutto. Accende anche senza parlare, neanche frega niente. Ma la recensione come ce l'ha? Se non c'ha antenna? Vabbè, l'accende, almeno a tenere carichi i condensatori, dove ti dica? E piangere il cuscino, non è che sia un... che i buoni di goce di vasi, no? Già lo conosci, quindi è un po' fuori di testa. Io gli ho detto, come vuoi, fai quello che vuoi, quello che ti piace. Ho visto novembre, capito? E niente, quindi è così, vabbè, era lui, ho detto di vendere, cioè farsi il soldo, ho detto di no, perché se poi le viene nuovamente la voglia di mettere un'antenna, infatti ho detto quando vuoi, quando ti viene la voglia fammi un fischio, allora, tanto io sono in pensione, ho detto, vengo, ti do una mano, montiamo l'antenna nuova e così rientra e fai due chiacchiere, ma ho detto va bene. Finalmente come congelare il pane? Penso che quel 440 per scaldarlo usi il phone. E si deve risultare che ci ha fatto fare questa troppo dopo. Ci ha invitato a cena a mangiare i funghi che aveva fatto la moglie, ci mi freschi sono appena fatti da mia moglie. No, io che andiamo a mangiarci la pizza, questo. No, cazzo, no. Voi siete a casa mia, tanto mia moglie ci sta guardando il televisore, venga un poco di roba e mangiamo i nocchi. Siamo già saliti a dire, vabbè, aiuto. E la gatta di camera, viva cancarata, con un ghiaccio dretto. Ma poi, figlia cazzo, lo pare. Era cantato per un po', ma... Ma sushi, per scongelare, no, ha usato il fuoco, ha attaccato lì, non vi lascio fatta. Mi vedeva solo a Natalino, credo, cosa? Io non lascio sotto dietro di lui, quindi non mi vedeva, però sono a Natalino e a Luca, lì dentro. Claudio, che fine fai? No, sono qua, stai parlando con Natalino. No, sto parlando con te. Cosa hai detto? Che Pinangelo una volta, cioè, ma a prenderlo per andare a mangiare la pizza insieme. E ci ha invitato a cena. Ha cavato la birra con un ghiaccio dretto, dopo ha cavato un pane, ha pigliato un po', e per scongelarlo già per un po'. Non ha fatto solo quello, con me ne ha fatto altri altri, io c'era attorno, una volta no, con mia moglie Rita, sono molto amiche con mia moglie, con mie sorelle, si conoscono tutti, capito? Ci siamo andati un sacco di volte, io ero Alghero, con Pinanzi, ci siamo andati al mare assieme, e... La birra lui se non è così non ne beve, tanto è vero che più di una volta per poco ci è rimasto, capito? La cribata del slogan, la congestione, lui è così, c'è niente da fare, lui la mette nel bicchiere ghiacciata e poi piano piano si scongela e dopo mette la birra, però la vuole così, non ne beve se non è così, capito? Ho trovato in crepa così la birra, oh vabbè che a me piace fresca ma non esageratamente col ghiaccio dentro. Rompe le scatole a stare qua dentro senza poter uscire, senza mamma mia, in prigione mi pare sì. Lo so, è brutto, perché anche quando sono in malattia, cosa, non posso uscire, mi fa lo stesso effetto, via. E lui Marco voleva venire ieri a prenderti, però ho detto, la Natalino non sta bene, non esce tanto, non sta bene, non c'ha manco voce, ho detto, cosa faccio a fare? Siamo andati a farci un giro. Con Marco, adesso passiamo ai colpi, io passiamo a prendere la, io passerei tranquillamente, ma non sto bene. Sì, infatti, magari a pigliare freddo e ti butti. Vabbè, speriamo che mi rimetto il più presto possibile. Ehi, hanno sembrato di averci detto un break sottofondo, avanti. Claudio, ha rilanciato a te Gianni Capo 2, ciao Gianni, mi hai sentito? Sparito lì! No, già, sono parlando la sera, sto alle 9, quindi alle 9 non c'è più nessuno. Faccio dalle 2 alle 9 la sera. E quindi non posso entrare, ci fosse gente dopo le 9 io entrerei tranquillamente, non c'è problema, ma non me ne sciuro, anche perché mi avesse fatto compagnia tornando dal lavoro. E vabbè, già sono cose che passano per il danno, non sono brutte malattie. Si è visto che ci sono questi casi di meningite, sono andato in carcere, cazzo buco. Ogni anno viene una nuova influenza, dicono sempre che c'è l'africana, venisa, verrà, ogni anno ce n'è una, e tutte quante non sono quasi di dai, sono influenze che prendono male. Diciamo che so, ehi, vabbè, non ha piovuto così tanto, già non c'è, però copri più fretta possibile, capito? Va bene, ok, dai signori, io vi saluto che sono le 8 quasi un quarto, è pronta la cena, ciao Gianni Capri 2, ciao Gianni Oppio Room, Natalino, Marco se l'ascolto, Massimiliano, chiunque fosse qua sul canale 10, dai. Buon fine serata a tutti, buon proseguo di QSO, io chiudo e vado a cenare, ciao, a domani. Ciao, buona cena Claudio. Ciao Elio. Sì, allora, saluto Claudio innanzitutto, poi siamo io, Natalino, c'è la marca, è andato via, adesso il telegiornale, e poi adesso ho sentito Elio e vedo i miei più sentiti saluti, avanti. Ciao, ti ha fatto tutto là, allora, quindi a me non ci pensi più, andare, avanti, andare. E dai, riprendo per salutare tutti che me ne vado, che sono stanco e mi voglio coricare un po', dai. Ci sentiamo alle prossime, salutoni a tutti quelli che sono sul canale 10, alle prossime. Ehi, ciao Natale, ci sentiamo, dai, buonanotte, e anche io chiudo, devo portare giù il cane. Oh, mi ha mandato la fotografia, questo mio collega l'ha fatto qua a copiare il cane in corso. Un bel brindisi sono tutti e due. Ma dove dormono? Fuori? Dove dormono? In campagna? Ah, sta pagata. Ma di chi sono? Il tuo o io pure di Ottavio? E cosa mi dai da mangiare? No, il mio primo ne mangiava il bollo della pizza, poi non ne ha più toccato, non ne so più piaciuto. Prima li mangiava l'uomo. Allora io gli do pezzi di pollo, pasta, crocchette, però le crocchette di quelle buone, di quelle che costano un po'. Ma, e ho visto che, grazie a Dio, si tiene bene, in linea è molto muscoloso. Okay. E ma è meglio abituarli così che mangiano tutto. Io mi ricordo Antonio, questo amico mio in campagna, ai cani gli dava, faceva un pastone col pane duro messo nell'acqua calda, poi gli metteva formaggio, le uova delle galline, quelle che si scheggiavano, e poi cosa così, e poi tutti gli avanti di casa, pasta asciutta, ossa, poi di tutto, tutto in mezzo. E anche io ogni tanto ce ne metto. Ma il tuono solo, però non l'albume, è il tuono. Il cane ha del carattere del padrone, poi... Vabbè, c'hanno anche l'istinto, certi tipi di cane, tipo i pitbull, c'hanno l'istinto, se si girano anche al padrone. Però se il cane tu lo tratti come devi trattarlo e lo educhi bene, non diventa cattivo. È territoriale, perché è territoriale, quel tipo di cane difende il territorio, buon guarda. Se entra un ladro lo fa una pizza. Ma io non avrei legato, io avrei lasciato di più. Io il mio non lo leggo, il mio è sempre libero. Poi quando lo porto giù, giustamente lo ho utilizzato, però se no è libero. E diciamo di sì, da in linea di massima, anche se ho le dita dei piedi che sono in pus, vabbè. colori dipendenti da un altro tipo di scarpa che ho messo, mi ha rovinato gli alluci, dai, praticamente mi ha fiammato. Sta diluviando Gianni, ti raggiudito. Diluviando? Sì, io vado più tardi, non ne ho problemi, intanto non lavoro domani mattina. Ok, dai. Andate a lavorare. Di sera lavoro. Cazzo, va bene. Capri 2. Ciao. Ciao, Capri 2, ci sentiamo, buona serata e buon appetito, va. Avanti, fra. Certo, io non ho sento, sento che c'è una rebellia, però non capisco le parole. Niente. Allora, cosa c'è di sono, diciamo che devo portare il carro, ma non mi sto decidendo perché Carlo deve stare, che sta diluviando, e ancora l'ho portato alle 6:30, era giusto, non è che... Però adesso lo voglio portare a fare due pisciatti, vediamo un po'. Oia, non ho già segana, mi hanno ordinato queste scarpe autoclitiche, che cazzo invece fanno bene, ma ne vanno male. Mi hanno infiammato più degli alluci, che mi si è formata attorno a lui a tutto il flusso. Ma con quelle scarpe devi abituare, quindi molto molto abituare. E... c'è un amico che ce li ha. Nel tuo periodo gli dava fastidio, tu ci sei abituato. No, ha detto che deve proprio modificarlo, tu quindi come tu dovevi venire subito qua. Io ne ho messo, ero al lavoro, cosa facevo? Mi facevano male, sì, tu hai sotto l'attaccato, ma tu dici che non voglio arrivi, ti erano tutti gonfiati. Figura, è un casino. Vabbè, qua invece sta più o meno poco adesso, sta più o meno, e lì sta diluviando. Se ci ha detto Claudio, io non me ne sono manca conto, perché io ho la serata abbassata, sono sdraiato, mi stavo rilassando un po' perché io non ho avuto tempo a riposarmi dopo prenderlo, ed ero molto stanco. E ho approfittato del fatto che c'era gente, ho detto vabbè, mi faccio una chiacchierata e mi rilasso un po'. Mi sono sdraiato, anche perché con questi piedi così, che guarda, non sono incamminato, da lui, se mi rilasso un po' è meglio, dai. E al lavoro, senza il mio amico, come state? Diciamo che mi hanno dato una bella aiuta da pelare, mi hanno dato, per carità. È un casino, già. Ogni tanto mi arriva il gioco, arriva tutti i marini, niente. Sicuramente in Italia di porca miseria che ha preso di venire a Marco. Marco, è precisino qui Marco, e io cazzo lo posso bene. È preciso, dice no, questa cosa non si fa così, si fa così. E di quelli proprio precisi, precisi. Sì, lo conosco bene anche io. Lo conosco da quando era piccolo, però... sono tanti tanti anni che lavoriamo insieme. Lo conosco minimo 40 anni. Sì, allora sono vicino lì, ma si continua a trentina d'anni. Sì, sì, sì. Poi è in gamba come persona, Marco, ti trovi bene perché anche lavorando magari chiacchiera, fa una battuta, capito? E... quella persona è molto affabile, molto gentile, non è mai scorbutico. Non mi deve fare incavolare, perché se no sono cavoli, cioè cavoli amari. No, è una persona che poi ti dà cuore anche di lavorare, perché è sempre, anche se c'è problemi, lui è sempre stato sempre sorridendo, scherzando, è fatto così. Il problema è che si può andare lì. Ascolta, ho portato una cassetta a casa un giorno, dove praticamente c'è il vostro posto di lavoro e c'è lui con la maschera da picchio, vedi che è lì, vedi se sarà ieri. Sì, sì, sì, mi ricordo quella lì, sì. C'ha visto che stava a controllo, aveva una busta di nylon, quelle nere, sopra. Sono tutti spaventati il giorno, quasi una vita qua. E vedi, lavorare così è bello perché non ti pesa, con persone così non ti pesa, fa sempre scherzi, cose. Oia! E domani a Cagliari. Domani a Cagliari, ma sì. Guarda, la notte io ho fatto quello scherzo, mi sembra che erano le due di notte, se non di più, erano tutti mezzo addormentati lì, quella lì c'è la controllo, è andata a toccare vicino a pure, dare biliardo, un assisto, ragazzi, non il biliardo, per carità, e uno, guarda, non c'è la parola a descriverlo come sono diventato, 10 minuti li ho fatti. Poi c'era quello bassottino di sorso, quello che guidava il muletto, quello bassotto. Sì, per Luigi c'era quello piccolino. E poi c'era un po' di gente che dice che sono andati tutti gli altri, quindi tutti in pensione sono andati. Una sera lì, chi è? Poi ciao, passo passo ti ascolto, Luigi. Ciao Luigi, hai ricambiato anche a te, ho bloccato anche in ritardo. E io da voi, lavoro, Luigi. Poco te portare qua alla radio, avanti già. Idem, io sto facendo i turni di sera dalle 2 alle 9, dopo le 9 non veni su, quindi ecco già, se non c'è gente, prima si sta quasi da tardi, le 11 c'è mezza 8, esco, sono tutti quanti ciabattoni, mi piace vedere il telegiornale alle 8, si ritirano tutti a mangiare, oh, a me non me ne ha fatti tutto, appunto, ci ha fatto così. Adesso per dire, devo scendere a portare il gare, che scende alle 8, che scende alle 10, che scende alle 9, non me ne ha fatti tutto, per me è sempre uguale. C'era 5 minuti fa per frequenza, anche io sto scendendo alle 9 dal lavoro oggi, e alle 9 non c'è più nessuno, alle 8 ci saranno tutti, ci saranno a mangiare. E poi ce ne vanno a vedere il televisore, è così. Ah, non ti ho visto, non ti ho fatto caso, Luigi, dove? No, non ci ho fatto caso, no, io a volte quando guido sono ben quadrato, io sono molto inquadrato sulla guida. Molta gente mi dice ti ho salutato e non hai risposto, ma non lo faccio far male, sono molto inquadrato sulla guida. Magari, ancora niente, Luigi. Ancora si trabacca. Ma perché di notte pure lavorate voi? Ah ecco. Sì, infatti chi lavora di notte è considerato lavoro usurante, ma il mio che è pesante non è usurante, il mulattore che è pesante non è usurante, qui parlando da trama. No, sì, Gianni, anche il mulattore hanno riconosciuto il lavoro di Zimbo e è pesante lo stesso, però in un altro tipo di cose, non lo chiamano come usurante, lo chiamano un altro tipo di cose. Ogni sessione c'è il suo coso, che adesso non mi ricordo come sono. In effetti, a quanto pare, noi non rientriamo, anche se facciamo le luci, non rientriamo sulle luci che facciamo, perché non bastano le luci che facciamo durante l'anno, capito? Mi arrivano le buche di cose, e io sono tutto con l'artrite, capito, i dolori che ho dai fisi che portavo, e non lo riconosco, Sì, a me mi sono sempre domandando i documenti, io ho detto, ma va, adesso aspetto il 20, sono andato di nuovo all'Inquisi, sono andato a controllare, a parlare con loro, e mi hanno detto, dice che adesso ci dà un certo mese, ci dà a gennaio, entro il 20 gennaio, e adesso vediamo che risposta mi danno, per sì e per no, per l'altra domanda che ho fatto, e la terza domanda. E di una ruta mi sono domandando a i documenti, ma hanno mai. E a me la stessa cosa, io ho fatto l'ultima, l'ho fatto a 19, l'ultima visita, adesso mi dovranno dare il responso. Ciao oggi altrettanto, dai, a te famiglia. Buon lavoro, avanti frate. Ciao Rogerio, altrettanto a te famiglia, vai, ci sentiamo tutte le prossimine. Ricordati. Vabbè, se va bene già. Mi addormi. Avete un po' quel soppa. Ciao bra. Avete un po' quel soppa. Ciao bra. Mi stavo sedendo a mangiare. Ti ho sentito, sono andato a salutarti. Ragazzi, ti ho già salutati poco fa. Ciao. Ciao, via, che io adesso mollo perché mi sta chiamando a mangiare. sentiamo, dai. Va bene, buona cena a tutti, dai, ci sentiamo. Ciao Gian, buona cena anche a te. Sì, ciao, ci sentiamo, buonanotte a tutti, dai. Stavo facendo giù prima col cane e poi vado a cenare, dai, ciao, ci sentiamo. Ma oggi devo imparare, devo fare un gabinetto al cane, impararlo ad andare al gabinetto per poter uscire. Beh, tu lo stai scherzando adesso, io se non l'avessi visto non ci avrei creduto. Un'amica mia c'ha il gatto che si siede e fa la pipì. E dopo ci butta l'acqua naturalmente, però tanto si siede come le persone. Sì, ma io lo stavo scherzando, io ho visto anche il cane così, ho visto. Allora, voglio addestrarti. Sì. Quello l'ha addestrati. A me è l'unico modo per farmi uscire, dai, mi fa camminare, mi fa fare le passeggiate, mi sprona a uscire, mi capita che se non la giurata, mi sprona a uscire. E diciamo che è buona la cosa, che cammini, in ogni caso cammini sempre. E sono arrivato a 10.000 passi, dai. Telefonino mi ha misurato i passi, ha scritto hai raggiunto l'obiettivo, hai raggiunto 10.000 passi. Sì, su quello già c'hai ragione, almeno cammini. Va bene, dai, buonanotte, ciao. Ciao, ci sentiamo.